abbastanza prepotente come radio, però chissà perché io, Gigi, preferisco l'altra, quella che dovrebbe mettere adesso, perché non lo so, la fa più, secondo me, più completa come radio, come voce, come tutto. Bello, ho avuto sempre normale, io ce l'avevo, poi messo il pallino di modificarlo e non l'ho tenuto. Ho fatto un viaggio a Roma in cambio con quel paracchino lì e poi l'ho tolto e se l'ha preso Pierpaolo. Ho tenuto poco, cosa avrò tenuto io? Neanche un mese l'ho tenuto col micro da Pierpaolo. Sì, l'ho visto e lo conosco, quello che ha Pierpaolo, cavoli, un signor baracchino, cioè con quello proprio non è, con quello non sbagli, perché guarda, io di quella radio lì me ne sono innamorato, non l'avevo ancora vista, l'avevo solo sentita oggi. Sì, ma io me lo trovavo bravo a casa, quello lì, senza farli con l'impianto dell'eco e cose, che poi gli ho fatto in ultimo, no, normale, infatti partivano da, poi me lo fatti abbassare io, partivano, c'era la regolazione dei fatti, perché quello mi pare che c'era la regolazione dei fatti, sì, quello ce l'aveva, partiva da 1 watt a 25 watt, pieni, anche a 30 arrivava, te lo potevo tirarvi, cavolo, figurati. E per fare le modifiche non andava bene, lo dobbiamo per abbinarlo con qualche scarpetta, l'abbiamo dovuto fare diversi, però i picchi ce l'ha, perché mi pare i picchi di 27 quella radio lì, Caspita, alla grande. Signora, conosco quella lì, la media 3, attacchi l'altro cugino, micidiale. Cioè, quando tu lo metti al punto dove c'è il segno, perché io l'ho usato parecchie volte, se c'è l'altro affarino è una cosa micidiale. È positivo. Avanti Pierpaolo. Avanti. Non è pronto ancora, non ho montato tutto. Allora ho sentito male io, mi era sembrato di sentire un bip. No, non ti è sembrato, l'hai sentito. Doppio rum, sei tu? Ma qui, tutto pace, tutto pace. E a volte ti arriva anche gente a casa, capito? Rimaniamo parlando a lungo e quello c'è, cioè, gente a volte per non stare attaccato, diciamo una cosa, non viene a salutarmi, sta attaccato al baracchino, allora sei costretto a chiudersi veloce, capito, è successo anche a me tante volte. È positivo, se devo essere sincero, è successo anche a me, cioè mollare tutto per andare a rispondere al citofono e poi entrare qui correndo e spegnere l'apparato, perché proprio non facevo. È positivo, poi quando capita che c'è un altro giorno dice, ma no, tu glielo spieghi, perché a volte poi è capitato a me qualche volta, qua arriva uno all'improvviso e stanno parlando al baracchino, non me l'hanno tempo, o mi squilla il telefono a volte, o mi chiama mia moglie una cosa, o mi chiama quell'altro e continuano a parlare a lungo e non finiscono mai di cose, allora sono costretto a mollare, lasciare e uscire, capita molto, capita di reggetto una cosa e l'altra, che succede? Avanti bomboli, prendi. Uno. Per fatto, vai. Sì, guarda, questo qua è lui, cambia. Minchia, cambia la radio anche l'eco, non c'è niente da fare. Per fa, cambia tutto, radio eco, proprio più lento, l'eco è molto più lento, gira più lento. Leggermente più veloce l'altro, perché questo fa un wow più lento, questo lo fa giri più lenti, è così, è perfetto. Allora è rimasto sempre lui, poco lo sto usando, c'è quasi niente, cambia, sì, lui. andare io correndo perché c'era la lavatrice che se la stava passeggiando da sola. E cosa le ha detto? Le gambe? Guarda, gli ho piantato adesso due chiodi da 12 nel muro, vedrai che non si muove più. Così hai fatto? Oh, questa com'è, Giuseppe? Ecco, questa è la radio che conosco io. Cavolo, se questa qui cazzo sta uscendo bene. Vai, Pierpa, se questa è una melodia a sentirla. Vabbè, da una all'altra cambia, lo so, però... Lo stavo dicendo poco fa, Gigi, io questa l'avevo sentita prima di conoscerla e ti dico che questa qua mi è rimasta impressa. Questa la riconoscerei tra 1 milione. È positivo, e mica ci hanno fatto un segno, mi sembra, vero Pierpa? Che cosa? Non ho capito. Nel Michigan ti hanno fatto un puntino, o no? Sì, sì, sempre lì, sempre un puntino bianco. Perché se lo apri tutto ti sporca la radio, capito? Ti gira diversamente l'eco, capito? No, sempre così, sempre così era, sempre così rimane a quel segno lì, c'è il segno del pomello e più il puntino della radio. Sì, quella era la prova che facevo io, no? Da qua, quando la provavo, su tutti gli apparati, non mi faccio le posizioni dove esce Emilio, capito? Con i vatti, con le... col Mickey Gay, dove è con l'eco la stessa cosa, mi faccio i segni e dove va meglio, dove si l'ascoltano meglio, così li faccio sempre e non l'ascolto mai, ho capito? Sì, infatti ti confermo, infatti sono sempre 2 e mezzo perché se sollevo si sporca la radio, se sollevi a 4 si sporca la radio, sempre 2 e mezzo, 3, adesso è 2,7. È positivo. Prova dalla 3 a vedere 3 e 4 da Lucidi. Hola. E quasi 5 così. Attenzione, binario 21, doppio Roma rientrato. Buonasera. Ah, già nel doppio Roma. Abbassa la 2 a vedere Pierpa. Gira anche meglio l'eco, falla a 2. Ulle, compie. Dici? Ma meglio così, lo sai, più avanti è meglio è, e più pulita la radio. E a voglia. E siamo sempre lì, appena più sotto il puntino, ma è sempre lì. Capito, gira meglio la radio e l'eco, voglio dire, l'eco gira molto meglio, vero Gianni? Vedi come gira meglio l'eco. E la radio è anche più chiara, non ha la sporcizia, diciamo. Sembra che chiara. Capito, se lo metti è sporca la radio. Invece abbassando è più chiara la radio, è più forte pure. Ma capa, c'è una capa che non la muovo mai da così, è sempre così. È positivo, gira bene, così gira bene. Non va bene, su 2 watt almeno andare oltre, perché gira a fare. Poi così se attacchi la scappetta allora viaggia bene lì. La lascio così, va bene così, è inutile sollevare, fare, pompa. Lascio tutto così e già andare. E fai cambio, però prova a farlo, fallo girare, ecco, vedere. Vedi come gira, aumentagli un pelino, ecco, vedere. Aumentare l'eco? Aspetta, Cool, cambio. No, metto come la prima. Chi è rimasto? Non sai cosa è successo? Mi ha chiamato mia moglie che ne ha sceso tutto la, praticamente un piano del, dell'armadio. Si sono rotti quei biglini che lo tengo. E allora devo trovare un metodo per metterglielo. Allora cosa ho fatto? Ho preso una vite delle viti autofilettanti, li ho messi al posto di quei pirillini, va, tengono meglio le viti dei pirillini. È positivo, io ho comprato il ferro quei pirillini, quei così lì, rimendo a zicco, zicco, lasci, come cavolo vuoi chiamare, e glielo ho messo, che erano in plastica, c'erano tutti, glielo ho trovato in ferro già, e glielo ho messo in ferro, e non siamo più fasciati. Tiene fila così, dovrebbe essere il peso, boh, ne ha fatto uscire uno e gli altri l'hanno ceduto perché si è tutti in plastica. Ah, i cosi dei piani, dei ripiani del legno che ci fanno. Ah, oh, io pensavo dove attacchi gli abiti tu, quel ferro, quel tubo. Ah, no, no, e quelli, vabbè, li puoi mettere, puoi mettere a vite, va bene, e a voglia le va bene. E così ho fatto, gli ho messo quattro viti, solo che era quello del bagno, e praticamente quello che c'è sotto l'avvero, noi abbiamo il lavandino col mobile, no? E quello che c'è sotto praticamente che si è rotto. E l'ho messo così tutte e quattro, adesso non si muove, nemmeno si sta male, si è provato a fare forza anche col braccio e cose gli arreggi. E capparoglio, non anch'io ce l'ho così, però io me l'avevo fatto fare dal falegname, capito già? Me l'avevo fatto costruire dal falegname, quel cosa che non fa nulla l'acqua, tipo legno, ma non so se cosa è, tipo legno, e però non gli fa nulla l'acqua, me l'avevo fatto costruire anche io a misura per mettere sotto il lavandino, però me l'ho fatto grande io, proprio grande grande. E io ce l'ho il legno proprio, il legno massiccio. Paga. Quando avevo rifatto, diciamo, un po' camuffati i bagni e cose, li avevo fatti tutti e due così, i rubinetti dei bidet erano separati, gli ho messo le borchie, ci ho fatto anche il rubinetto col miscelatore. Capare, anche io l'ho cambiato così già, anche io infatti il miscelatore l'ho cambiato tutti. Anche quello della vasca, ho cambiato tutto, quei rubinetti, l'ho fatto a miscelatore anche io, li ho cambiati pure io, ho cambiati così. No, questo è, non so come si può chiamare quel tipo di legno, è legno, però legno laccato in bianco, me l'ha laccato perché non esiste, non gli fa nulla l'acqua, è rimasto sempre, ci sarà 20 anni già quel corso e non si è mai rovinato, è rimasto sempre bello intatto già, e mi ha fatto quello di sotto l'armadino a misura tra la vasca e l'armadino, quanto spazio ci avevo, poi mi ha raccontato un sacco di soldi, il marmo tutto color venato di rosa per fare il coso tra l'armadino e il coso, perché il mio è il color rosa, non rosa ma un bordeaux, un coso tutto sfumato il bagno, mi lavo di solito, adesso mi sono messo pentito, avrei messo bianco, però all'epoca avevo messo quel colore lì, l'avevo preso, trovato, e quel colore pagato Burugaro, i pizzi sanitari, e abbiamo fatto fare questo coso dal falegname, e dal falegname c'è qui a Ottava, e ti dico, un coso non fa nulla l'umidità a me, non gli fa niente, e poi ho fatto un mobile, c'avevo un altro incasso che rimaneva giù in fondo, un mobile grande grande per metterci di tutto dentro, ci posso mettere di tutto dentro lì, capito, scarpe, ma è più di un metro profondo lì, quello ci sta di tutto dentro. E infatti bisogna sempre realizzare negli spazi che si hanno qualche cosa, perché bisogna sfruttarli al centro, gli spazi, perché quando è così, addirittura mia moglie voleva fare tutto il bagno, voleva lasciare tutto, e questo qui un altro ha detto sì, però voi dovete andare via da casa, io ve lo faccio tranquillamente e poi ritornate, ci voleva mandare via da casa per fare i lavori. Positivo, questo non è tipo legno, costa molto più del legno, vabbè, ho fatto il lire io, vabbè, avevo possibilità, c'erano soldi a disposizione, l'ho creato questa una cosa così. Rimane, tu come la cosa, quando cosa, un coso, un massello, però è tipo legno, non vimini, non me l'aveva ancora così, me l'aveva fatta apposta perché non gli fa nulla l'acqua, mi capisco, tipo per le barche questo legno, hai capito, non fa nulla l'acqua, mi mica il tè. Cosa Giuseppe? Non sarà mica il tè. Ma te lo so dire, è un tipo di legno, rimane duro, non, cioè, mai, non mi si è mai rovinato, non è intaccato nulla, è rimasto sempre, sembra pitturato di bianco, sembra, però la vernice rimane lucida e liscio. Ho capito, sì, se quel tipo di legno è micidiale. Allora, quel mobile che ho messo in cazzo, che è grande, sarà largo, c'è uno spazio che sarà 1,40 m, buoni, 1,50 m, e mi ha fatto questo mobile, lui, largo 1,50 m per 1 m, alto, quasi l'altezza mia sarà, più che croce più o meno, e solo con lui mi ha fatto pagare 800.000 lire all'epoca, quello lì, 800.000, mi sembra che aveva speso in tutto 950.000 lire, tra quello del lavandino e questo mobile che mi ha messo lì fino al proprio incasso. Eia, lo sai perché te lo dico? Perché un nostro cliente che fa anche falegname di Valledoria mi ha fatto un tagliere per casa e quel legno si chiama Tec. E ti dico che lo tiri al bordo di una colonna e diciamo scheggi la colonna. Ecco perché ti dico, sicuramente è fatto con quel tipo di legno, si chiama Tec ed è micidiale, è più forte dell'acciaio. Io quel coso lì, quel legno. Senti, ma detto qualcosa, è duro, mi se lo batti, è duro come te un marmaro, hai compreso? Ehi, allora è lo stesso tipo delle tagliere che vi ha fatto, ce l'ho qua in cucina, ma ti dico che quel coso è veramente un'arma, fai più danno con quello che con un'ascia. È positivo perché il lavandino ci sarà 20 anni, io buono buono ce l'ho 20 anni qualcosa, ce l'ho 20 anni e ti dico che non si è mai rovinato, a dire sgonfiato da una parte, tolta la nulla, è rimasto sempre intatto bianco come la neve, come l'ha vermiggiato e non si è gonfiato da nessuna parte, capito questa cosa qua, le sportelle sono duri, mi sento duri tutti quando l'apri, sono duri di proprio pare di marmo. È positivo, sì, allora è di quel materiale lì, quello lo puoi mettere anche fuori in cortile, lo puoi lasciare anche 20 anni e stai tranquillo che non gli fa niente. Oh, bene, detto questo io faccio 5 minuti di bianco, dopodiché ci risentiamo. Capagava Giuseppe, così te lo vuoi, l'ultima battuta, tienilo lontano dalle mani di tua moglie. Kappa, infatti già è bello conservato in cucina. Non si sa mai. Senti, Giuseppe, io tanto ne approfitto a salutarti perché sono tutto il giorno, non sono salito a casa per niente oggi. Sono tutto il giorno che sono in garage, poi siamo usciti a prenderci il caffè, una cosa e l'altra, e sono da stamattina che io non sono ancora entrato in casa. Lasciala da mangiare. Allora tu non c'eri poco fa, quando sto parlando ho fatto le pulpi arrosto e gamberoni, non c'eri tu. Allora che sono andato a aggiustare quel mobile. No, infatti, la volta c'era più uccetto, la mamma c'era più uccetto. Ah, e KK. Ho capito. Va bene. Sì, non c'è problema. Antonio, sì. Ma che ci sono? Cappa, dai, ne approfitto allora a salutare a Gigino che sta andando via, io riprendo fra 5 minuti, mi sbrigo 2 commissioni e sto rientrando. Sì, Cappa, vabbè dai, buona questi greca allora, se devi fare questi greca Giuseppe, e ci sentiamo dopo. Avanti Antonio, ciao Gigino, ci sentiamo anche a te, siamo qua se vuoi rientrare. Positivo, no già, me ne vado a casa, dai ce l'ho giù e dopo non ci sono più in garage, dai. Me ne vado un po' a casa, che controllo il fuoco del camionetto di su, e c'è ancora la braccia qua dentro, controllo il fuoco su e niente, dai, e mi guardo un po' di televisione, anzi oggi ho fatto un'eccezione, non ci stavo più, un'eccezione ho fatto di stare un po' a parlare, però mi ha fatto anche piacere, dai, dopo tanto non sentivo né a Pierpaolo né a Antonio, ci ha fatto piacere farmi una chiacchierata. Allora, e con questo ne approfitto a salutarvi a tutti, compreso Pierpaolo, Antonio e a te Gianni. Riprendi Antonio per i saluti che io chiudo. Ok, Luigi Vulcare, a me è molto piacere, a me non abbiamo passato una serata come si deve. Ok, Luigi, dai, ci risentiamo, saluto anche a Giuseppe, che ancora non ascolta. Avanti, Gianni. Capagabè, io l'ho già salutato. Le nuove saluti. Ci sentiamo, ha fatto piacere anche a noi. Fare un corso tranquillo, perché stasera c'erano i musichieri, quelli che mettono la musica degli anni 40. Allora, senti, ti dico la verità, eravamo da qua, da ora di mezzogiorno, in garage, ho fatto una prova su un canale, stavo provando un inter che, cos'era, tutte le bande laterali, un coso che, a Pirucetto, e basta, però poi era tutto spento, non ho sentito niente, poi era tutto, il baracchino spento qua, eravamo tranquilli, arrotendo, mangiando, e col baracchino chiuso. Dai, se lo vedi, saluta buona Pinuccetto. È andato via poco fa, doveva andare a Tippio, che forse doveva andare a Tippio, che l'hanno avvisato, che mi pare che... perché lui sta lavorando lì a Tippio, che spagge, c'è il camion che spagge il sale. Ah, non stavo portando di legno. Ma lei non ha mai provato carbone portava, capito? No, adesso sta lavorando, sta facendo questa stagione lì e quando lo chiamano a qualsiasi ora deve esserci, lui deve essere reperibile. Di giorno può essere libero, però la notte cosa c'è da mettere il ghiaccio e sale col camion per spargere il sale, deve partire e andare a lì. E cosa c'è? Ghiaccio ancora? Ma non so, l'hanno avvisato che il tempo sta cambiando e doveva andare forse a tempo, che c'è un po' a rischio in me. Ho capito. E ogni tanto c'è un battravaglio, più non c'è, dobbiamo lui così almeno non fa sempre le stesse cose. Prima andava a fare il muratore, portava la legna, adesso sta per spargendo il sale, insomma, ogni tanto cambia travaglio. Le stagione sta facendo lì, dai, non è che sino che dura questo tempo freddo poi è finito, capito? È fortunato che... perché quando è monotono il lavoro è brutto, invece quando cambia ogni tanto. Vabbè, dai, ci sentiamo, dai. Stavo lavorando per questo zio Pietro, che aveva qualche volta è venuto con lui qua. Stava andando anche in Spagna quei giorni scorsi, il periodo scorso, stava andando anche in Spagna a fare questi agnelli, queste cose per conto di questo. E invece cosa è successo? La mattina dovevano andare, dovevano partire, questo uomo non si sentiva tanto bene, poi è andato a cercare il canto lì dove c'era quello dell'ugolo e carne. Non si è svegliato più, appunto deve essere un cruzzetto, lui si è sdraiato perché si è accorto che si sentiva male e ha avuto questa cosa del morto. E da lì no, era fermo. Vabbè, so cosa gli succede, ma è cristiano. Via. Andava bene, Antonio, riprendi. Ma io dico una cosa, che se uno si dava a fare il lavoro, se questo è il mio parere, lo trova. Dai, ne approfitto a salutarvi nuovamente, dai. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Io conosco gente che se li ha anche inventati i lavori, non aveva lavoro, pigliava, andava a Rusigasagna, vendeva cioca, vendeva questo, vendeva l'altro, e aiutavano, pitturavano, facevano, insomma un po' di tutto. Però sempre bisogna darsi da fare, perché queste cose bisogna sapere chi le deve fare, quindi bisogna che uno si arrangi anche a chiedere, a fare, deve avere un po' di faccia, se no non c'è faccia tosta di chiedere. Sì, no, bisogna muoversi. Ecco, già è pronto a mangiare, ci sentiamo fra un pochino, Sì, va bene, dai. Ciao Anto, ci sentiamo. Raga, va dai, mangi un po' come. E va tranquillo, dai. Ciao ciao. Prego. Avanti Peppino. Cava cava, lasciamo da parte la... Oia, eccomi qua. Lasciamo da parte il bianchetto che abbiamo fatto e riprendiamo il QSO, va. Ma poi dici che non bevi, Oia, lascia perdere, bere. Mi ho bevuto un litro d'acqua oggi. Ma non sto bevendo nemmeno tanto e prima ne bevevo di più. Ma hai detto che ti ha fatto il bianchetto? Ah, oia, ehi, bianchetto, poi segreta. Scherzavo, naturalmente, già lo so che non bevo. Ma l'estate si beve di più normalmente. L'inverno si beve, ma non così tanto. Io mi alzo a volte la notte a bere un bicchiere d'acqua, poi la mattina le bevo un bel bicchiere come mi alzo. Quello già fa bene per purificare. E mi bagno, mi faccio il lavaggio agli occhi, prendo la cofferta e me la butto dentro l'occhio, sempre lo faccio di mattina. Ehi, scusa già, mi ha distratto un attimo Lella. Ci aveva il tagliere in mano. No, mi ha chiesto quando mi metto in tenuta da combattimento, che io sono ancora vestito. Disabili. Eia. E anche perché abbiamo portato la bambina alla coso della pesta della Befana che c'era giù a coso a Porto Torres nella piazza. E niente, lì ha giocato, ha cominciato a coso a sparare coriandoli a destra e a manca e d'altronde era pieno di bambini ed era la festa loro. Noi non lo sapevamo, ma c'era una grande festa a Sassari dove abbiamo portato stamattina. Io me ne sono ricordato dopo, c'era la Befana che dei pompieri che scendeva dall'ultima finestra della provincia, si buttava con un cavo, scendeva giù e buttava le caramelle ai bambini dall'alto. Poi li facevano vestire da pompieri, i bambini, li facevano spegnere l'incendio, sempre cose simulate, no? Tipo i fumi finti, poi prendevano l'estintore per spegnere, un estintore leggero di quelli finti e cose. Però tanto per rendersi conto, l'equilibrio, la prova dell'equilibrio, li facevano fare, li facevano passare su una passerella. Hanno fatto vedere Antenna 1, io un anno a Marco l'avevo portato, però pensavo che non fosse ogni anno. In più c'erano tutte le moto d'epoca, c'erano più di 100 moto d'epoca. Ehi, hai visto? No, non sapevo niente nemmeno io, Giorgio. Io lo sapevo, ma non sapevo che lo facessero ogni anno. Adesso la prossima volta non mi butti. Infatti stavo cercando qualche festa per la sera per riparare la storia, perché l'ho vista in televisore, ho detto papà non mi avete portato, e ho detto Marcolino non lo sapevo che lo facessero anche quest'anno. E niente, non sapevo nulla, se no magari sarei anche sceso. Sì, positivo già. Positivo, va bene, sono cose che per una prossima, per l'anno prossimo ci serviranno di lezioni. Infatti, io l'anno l'ho vista, addirittura si è calato il pompiere con un cane e poi ha spiegato che quello era il suo cane e che l'aveva addestrato e faceva ricerca nelle macerie. L'aveva messo a disposizione dei vigili del fuoco quando serviva, gli aveva fatto l'addestramento lui, però il cane è suo, non è dei vigili. Lo mette a disposizione quando si tratta di cose di macerie e roba del genere, ha fatto vedere come cercare persone. È positivo, positivo. E beh, quelli sono utili come cani. Quelli quando succedono disastri e compagnia bella sono di un'utilità estrema. Era un miticcio mio Giuseppe, ma tu devi vedere come cercava, come faceva. Allora c'è un segnale, gli metteva una bandierina e quando lui vedeva questa bandierina doveva cercare. Tu devi vedere come metteva la bandierina, partiva questo cane e cominciava a cercare, a fiutare da tutte le parti, sino a quando trovava, gli avevano messo la bucchia di strazzo, sino a quando l'ha trovata non l'ha mollato. Eh beh, ci posso credere, ci posso credere, è il loro lavoro quello, addestrati per quello, guarda, sono micidiali, poi col fiuto che hanno. Pagaffa, poi non era manco un cane di razza, ti ripeto, era uno di quei cani piccoli, però si dava da fare, si destreggiava, poi il fatto che il cane si faccia calare da una corda così, non è che sia facile, prima ha calato uno e poi ha calato l'altro, il cane, capito, si faceva calare dall'ultimo piano della provincia, si la scendere giù verso Maria. Cazzo, figurati tu, cazzo, vedere a razza di coso, di addestramento. Perché li addestrano per scendere nei dirupi, queste cose qua, capito? Ehi, ai, ai. Niente, era la mascotte dei Vigili del Fuoco, infatti hanno fatto un bel applauso quando è sceso. Eccolo. Eccolo. Avanti. Buonasera, dottor Rullo, buonasera. Sera anche a lì. Anche a lì. Come non so va? Non ti arrivo un po' troppo forte, un po' anomalo, Troppo forte. Io? Eh beh, sono in zona. E dove te la trovi? Allora, aspetta. Vabbè, zona Ocean, va, sulla 131. Ma sei Conan, ho sbagliato, ho sbaglio. Beh, ti ho messo in difficoltà, non sei abituato a sentirmi con questi segnali, probabilmente, Ma la voce è la tua, la voce no, non si smentisce, lo sai che il doppio room ha questo orecchio fino. E allora cavolo, sta arrivando bene, dai. Kappa, ho detto che sono in zona, bene o male sono sempre in ascolto, però vabbè, barra mobile, non sempre ascolto tutti, però ce l'ho sempre acceso. Ho detto che sono in zona e sento qualcuno, almeno saluto, no? Ti ho pensato, ascolta, il TT 800, quello che c'hai tu, ah, no, io ho Splunker anche. No, c'ha l'ANL, non ha il, noi Splunker, non ha l'NB, ha ANL. Cappa, dimmi una cosa, un'altra cosa, ma in macchina l'hai mai provato? Io l'ho provato una volta solo, sono contento, e come ti dicevo le altre volte, diciamo, è molto soddisfatto e l'ha testato molto di più sia in camion che in macchina, Giovanni. Cappa, cappa. Allora va bene, 99 euro, cosa vuoi che siano? Quello è un bellissimo apparato, a me piace proprio. Guarda, come apparato è bello, ti confermo, io sono contento, ce l'ho ancora. Lecchino lecchino, non l'ho sfruttato come ti ho spiegato, semplicemente perché stavo cercando un apparato omologato con le bande laterali, oppure me ne stavo tentando uno con frontalino removibile, giusto per questi sfizi personali, però va bene, dopo che te lo compri ti mando la modifica per i 400 canali e per tirarlo un pochino di modulazione di watt. Cappa, cappa, cappa. Ti stavo dicendo, beh, comunque è un bel apparecchio. Per la panna mi serviva, dai, per metterla alla panna. Io sono in compagnia di Bombolo, che si è allontanato adesso per mangiare quattro bucune, e poi di Giuseppe Tornado. Vai per Giuseppe e poi magari si rientra Bombolo anche per lui, vai. Cappa di Roger, vediamo un po', Giuseppe, credo di sentirlo bene. Buonasera Giuseppe, Sandro Conan, di Alghero in trasferta. Cappa, cappa. Giuseppe da questa parte saluta Sandro. Salutoni e cordialità da parte mia, cappa. A voglia, bellissimo segnale, dai, in uscita da Sassari, sulla quattro corsie, arrivate tutte e due a palla. Bella modulazione, bella radio, spillante, occupate tutto il canale, più che bene. Sì signore, quindi in tre per ora, poi tra un po' come arrivo in zona d'ombra, se non dovessi riuscire a farmi saluti, vi chiedo di sentirmi salutati. Salutone anche da parte mia Sandro, sono un attimino rientrato che sta ancora preparando, sono un po' da mangiare. Comunque sono rientrato a salutarti. Cappa di Roger, ho ben sentito, Bombolo quindi, giusto? Va, Radio Bombolo. Radio Bombo, carinissimo il Roger Bip, termine alla fine, molto molto carino, soft, insolito e quindi molto carino. Cappa cappa, adesso tu già cominciando a perderti, forse in una zona un pochettino d'ombra sei. Cappa. Comunque qua si sento bene, cioè quando arrivi sento la modulazione è buona e va bene. Sì, qua in barrio mobile, dice che FM 600, sì. Baracchino in secca ci può 50 comunque. Vabbè, grazie. Ok. Un attimino di bianco, vai, sono a fare una cosa, vado a mangiare, ok? Attenzione, doppio room, Sandro fa chiamata per te. Positivo, sicuramente il doppio room si è allontanato un attimino dall'apparato. Sì, qui arrivi sempre, Sandro. Positivo, positivo, io ti arrivo sempre lì, sì. Meglio guardare la strada che lo switcher, mi raccomando, non ci sta assolutamente problema. Attenzione doppio room. Doppio room si è assentato di nuovo, e pazienza. Aspettiamo quando rientra, vediamo un pochino se riesce a... Ma sicuramente, addirittura ti dovrebbe copiare meglio di me, visto che lui come posizione risulta più in alto. Vediamo un pochino con la chiamata se il doppio room è balza fuori. Ehi, allora scusate, ma dovevo fare una foto urgente. KK, Sandro ha fatto chiamata per te. K, avanti Sandro, dove sei? K, oddio, credo di aver posto passato l'uscita per la preghiera, ma non sono sicuro. Me la sono persa. Dicevo, pensavamo che ti avevano preparato la trompetta al sugo, quindi è scappato. Negativo. Ti devo dire una cosa, devo fare delle foto perché devono vedere la conformazione della mia faccia. Per farmi praticamente per mettere un apparecchietto a mio figlio, capito, lì dentro. Cosa c'entra la conformazione della tua faccia? Beh, della mia e quella di mia moglie, tutte e due le vogliono. Studiano e vedono se il problema è una cosa genetica o se è capito. Sì, ma infatti ho già inquadrato, dal momento che ho proseguito la descrizione mi sono immaginato qualcosa di sicuramente tecnologicamente avanzato, tanto ormai riescono a fare di tutto, quindi. Ma siccome c'è dentro un po' larghi l'avanti dovrà mettere l'apparecchio. Diciamo bene, allora devi organizzare le date di triangolazione fotografica. Va bene, diciamo, per loro va bene, per noi no, che spendiamo. Vabbè, ma vuoi mettere, è una cosa che serve da fare, ma... Beh, lo credo. Giuseppe. Eccolo qua Giuseppe, eccolo qua. Ricordiamoci che sono finiti i tempi dei vani scarichi che tiravano via anche i denti. Tipo mio che tirava subito il dente, ma quando te lo curava diceva questo è guasto da tirare, via. Chiamalo mamma. E poi che faccia come ha fatto a me, meno male che mia madre mi ha controllato, mi ha tolto il dente. La notte mi è venuta un'emorragia, mi ha trovato una botta di sangue, meno male che mia madre si alzava per controllarmi e cosa. Mi ha trovato una botta di sangue, mi ha dovuto portare a pronto soccorso, quando mi hanno visto la gingiva com'era, mi ha detto il dottore non voglio sapere manco che dentista sia, l'ha macellato, ma c'ha tutto quanto, è proprio slabrato le cose, non le ha manco cucita. figurati. Oh, boh, andiamo bene. Hai sentito, Sandro? Sì, sì, ma in effetti le vecchie di su si erano belle. Qual è che fa male questo? No, lo tirano, non si fa ancora male. Ma scusa, si è tirato quello sbagliato, che ha detto che non si altro. Ma intanto quello era di una cosa, quindi... e magari ti tirano fuori quello di destra. Guarda, almeno da questa piccola sovramodulazione tra voi due posso dire che Gianni Doppiarume mi arriva più forte di Giuseppe. È stata voi involontaria, cosa ti stavo dicendo? Che praticamente ho conosciuto anche una signora, io, che praticamente le hanno fatto davvero l'operazione, c'aveva un tumore al seno e invece di tagliargli quello col tumore hanno tagliato l'altra parte e invece c'è sempre il tumore. Certo, sono tutti comunque. Io, ciao. Giuseppe, non so se lo ascolti. Ho sentito. E Giuseppe? No, no, ho sentito nessuno io. Questa l'ho sentita anche in mano. Vediamo se un amico riesce a copiare Giuseppe, che lo supera cordialità. Siete Giuseppe, Giuseppe, se mi ascolti Carlo, buonasera. Sì, buonasera, Giuseppe da questa parte, vedi un pochino se riesci a copiarmi. No, perché ti avevo salutato 2 secondi fa e sembrava che non riuscissi a copiarmi. Comunque è tutto Roger. Dove sei tu, Giuseppe? Sassari, zona Sacro Cuore. Ho capito. Io ci ho studiato un giorno, ci ho sbagliato, sì. E come lo chiedo qui, ho già. In macchina, aspetta, vediamo dove è arrivato. Sandro! Abbassa, allora, Almedo. Adesso si trova Almedo, Giampaolo. Senti a Giampaolo, come? Signore, buonasera Giampaolo, non so se mi ascolti, Sandro Conan, ma questa è in barra mobile. Attualmente l'attraversamento Almedo, vai per te. Sì, ti ascolto, ciao, l'hai sentito, buonasera. Sì, ti sento bene. Allora, comunque, si chiama Mario Matera, 2009, va bene, 900. 980. Quindi adesso l'hanno riaperta la strada per Olmedo, sì, sì. Guarda, io sono arrivato a Olmedo, ci sono passato anche oggi stamattina senza problemi, sì. Quella, se non mi ricordo male, l'avevano chiusa dopo quell'inondazione che c'era stata. Lì mi pare che era chiusa all'altezza di quelle serre, se non mi ricordo male. Positivo, meglio così, già era ora, hai visto che qualcosa di buono ogni tanto la fanno, è passato un anno e mezzo, però perché si sono ricordati di riaprirlo. Sto passando. Adesso ti ascolto veramente bene. Con l'aiutino dalla notte al giorno passo. E è scomparso qua adesso. Come ho detto che ti ascoltavo bene, si è scomparso, sembra fatto apposta. Cava, adesso non riesco a copiarlo più nemmeno io, anche se ho di queste scariche elettriche ogni tanto, guarda, ci deve essere qualcosa di acceso in qualche appartamento qui vicino che mi sta ossessionando la vita. Qua non sento niente, è abbastanza libero, però non sento manco a lui. Come? E sicuramente c'è entrato lì a Olmedo, c'è quel pezzo, guarda, che è un fosso. Ciao, un po'. Ho già 5 minuti, mi assento. Via. Vediamo un po'. Campa che ti ascolto, sa. Eccolo, sono uscito da me, però non so se sono buona. No, non ti ascolto, direi che ti ascolto bene. Pepangelo modulando sta, Finangelo va per Pangelo. No, è troppo che non lo sento. C'era un bel vento oggi, forse prima di Natale lo sentite qua, però non ho avuto modo di salutarlo. Ma adesso già un po' non lo sento. Ma paga, proprio mentre lo sente. Adesso si è stufato del resto. Attenzione. Prima della questa greca esecutiva, io l'ho sentito diverse volte sul 10 modulare. Cavalcava. Magari stavo entrando in qualche altro canale, dai. Dai, esecutiva per me 5 minuti. Io. Giampaolo Silvestro, ci sei? Giampaolo sta cercando. Attento, Gianni. Avanti, Rituccia. Buonasera, dove sei? Ciao, già, Platamona. Ah, Brasilina si andà. Allora, eravamo portati alle 7 e ci siamo fermati qua a Platamona. Ma non c'è umidità. Scoppiato, già. Ehi, ho detto, non c'è umidità lì. No, siamo in camper, eravamo a Porto Torre. Ah, cappagà. Tu famiglia? Positivo, penso che avere a te dovresti di qualcuno. Ragazzi, vedete pescando a cena. Boh, non si vede niente da qua. Tutto ungio, No, è soltanto. Tutto il giorno in girella? Vabbè, eravamo da qua ma tanto, adesso siamo qua. Tanto per non stare sempre chiusi in casa. Voi siete due spiriti liberi. Buttami quel signore che è vicino. Sì, infatti mi ha detto, ma in girella è già. Ma no, lei capisco, sono a casa, sono qui sdraiato al calduccio. Non avevo voluto uscire stasera, sono uscito stamattina a fare un giro molto, tanto per farla girare un po'. Ma no, noi eravamo in giro da mamma, oggi a pranzo tutti assieme, là sta la mia famiglia. E poi siamo usciti a Porto Torres perché c'era la festa per i bambini. Ecco. C'era anche a Sassa di stamattina, c'erano i vigili del fuoco che si calavano vestiti da Befana, che si calava dalla provincia, andava verso Marini, si faceva scendere dalla corda e lanciava le caramelle ai bambini dall'alto. Poi hanno fatto fare le prove ai bambini. L'ho visto il televisore, non è che io sia andato, sono andato un anno l'anno scorso, ma quest'anno facevano fare le prove di agilità, eccetera, eccetera. Facevano spegnere gli incendi finti. Buonasera a tutti. Mi stai parlando con Sandro ancora? C'è Sandro, c'è Rizza, c'è anche Giuseppe Tornado. Insomma, c'è Stefano. Stefano, fatti sentire. Sta guardando i cartoni. Sta guardando le donne. Quanti animati con i bambini? Sono. Anche il televisore ci aveva. E dove sono? A Battamora, Antù. Ciao, Antù. Senti, Antù. No, non arrivano, no. Non riesco a sentirle. Cappa, comunque se mi sentite, saluto le da parte mia, Positivo, Antù, io ti ascolto qua. Ti ascolto bene, chiaro. Dove c'è perché l'apparato? Dietro o davanti? Cabina. Ah? Il televisore è dietro però. Sì, va bene, se tu c'hai tutti questi gerghi da campinista. Hola. Usi tutti questi gerghi da campinista. Vabbè, così si chiama. Già lo so. Non so che si chiama così, ma la vera cellula non è quella, la vera cellula è quella che si stacca. Noi ce l'avevamo, la Croce Blu si chiamava l'ambulanza con la cellula, praticamente ti trovavi alla rotonda, dovevi fare un campo di pronto soccorso, mollavi la cellula, si staccava l'ambulanza dalla cellula, la cellula li mettevi quattro piedi e faceva la posta di pronto soccorso. Era la l'unica che c'era in tutta la Sardegna, poi l'abbiamo venuta in continente. Ben gombrante, era troppo larga. E invece lo sai come lo chiamano in gergo, diciamo, di giostrai? Lo chiamano Campino. Campa. Campino lo chiamano, perché l'ho fatto anche la giostra, lo so. Avanti Giuseppe, sei rientrato. KK, i due colpetti di portante sempre per educazione, sono rientrato. Ciao Giuseppe, me ne ascolti. Ui, ciao, buonasera e ben sentite, auguroni di buon anno. Grazie, grazie a tutti. Grazie Ri, grazie, gentilissima come sempre. E mi sono assentato 5 minuti, novità, gente che è entrata, gente che è uscita, Sandro c'è ancora? È entrata Antonio, vediamo un po', Sandro ancora, ci sei? Io ci sono, ma non so se mi ha portato, sono a posto di Alghero Montanese, vai. Positivo Sandro, anche qui nella mia postazione arrivi bene, e con la speranza che ti arrivi io. Ma ti sentiamo sempre, sa? Ancora, e capita, sono dietro la collina. Ti sentiamo sempre, sei dietro la collina, abbiamo capito. Ah, qui stai arrivando Santiago 4, Sandro. Signori, è stato il 51 circolare tutta la ruota, tutti quelli che mi ascoltano. Sandro Cora alla testa. Ciao, ciao Sandro, vai. Ciao Sandro, vai. Buon corretti e buon tutto. Avanti, Giuseppe. Positivo, ciao Sandro, buon tutto, buon QRT, ci risentiamo naturalmente alla prossima. Ciao e buona serata. Avanti Antonio. Antonio non risponde, Rita. Ehi, agenti che sono qua. Riprenditela, cosa fate, il notturno? No, negativo, adesso saliamo a casa che le bimbe domani andranno a scuola. È vero, sì, vabbè. Finite le vacanze? Vabbè, sabato sera ci riesce, la sabato lunista. Il tempo come si è messo? Ma adesso sembra bello, il mare è caldissimo. Vabbè, se c'è bella giornata già va bene. Io un po' adesso ho mollato a fare queste uscite, ma già lo sai io com'ero lo stesso. Non lo facevo in campo, lo facevo in macchina, ma facevo i picnic, eccetera, eccetera, nei parchi, eccetera, eccetera, c'era un bebè. Adesso un po' meno, perché è un amico che non sta molto bene, quindi non stiamo più andando, ma già riprenderemo. Stai sempre facendo, ti vedo nervoso, invece quando esci fuori sei distratto, sei tranquillo. C'è un campo, Sant'Antonio, non so se te siete mai stati, a Uri, questo campo dove ci sono i giochi per i bambini, c'è cosa di agility, un bel di roba, un bel bello, dei tavoli per mangiare, per arrostire, è una figata. Sì, sono andato. Poi ce n'era un altro prima di Proaghe, siamo andati, poi a Monte Arana. Eravamo la settimana, no, 2 settimane fa, Monte Arana. Bello, vero? E io tutti questi posti sempre che riconosco, perché ho un amico che fa il direttore delle poste, il vice direttore. Quando arrivano i clienti del paese, dice, ma non è che c'è qualche posto? Però, sì, sì, mi vai lì, vai là. E allora io vi... Già va bene, noi eravamo lì, così eravamo uno cantino, a pari sotto si vede il fiume, tutto quanto bello dall'alto, si vede Mores. Sì, sì, molto bello, un bel posto, ma mi ha freddo il giorno. E sempre c'è freddo lì, Noi abbiamo trovato il fumi, lo sai. Cosa? Abbiamo trovato, siamo andati un giorno che era pieno zeppo di funghi. E uno ci ha detto, non lo so se sono buoni, quei funghi di Mucci, mi li conosci? Quelli di Pino, no. E mi ha detto che non erano buoni, quello che stava un amico che si è intendato, vai, sono ben buoni quei funghi, sono fatti a prendere, erano belli duri, belli, con ogni abbezzo di fungo. E avevo fatto 2 buste piene, ma pieno, ti sto dicendo una cosa allucinante. Quelli già sono buoni, anche qui. E vabbè, non li conoscevo, di solito prendevo Frattaioli, Antuna e Mazza di Tamburo. Già li conosco, però noi sulla stessa non è che li conosco, li dici per nome, però non è che andiamo a cercarli, perché non li conosciamo. C'è stato un pastore che aveva degli agnellini, dove si doveva ammazzare, poveracci. C'aveva degli agnellini caricati nel carrello della macchina e ci ha detto che non erano buoni, che loro non li facevano, quindi l'abbiamo lasciato. E gli adesso siamo di rientro. I posti, bei posti. Non mi viene scritta di cloaca, non è bene, Henry. E dove siete andati? Lì a... Cosa lì? A Castelloia eravamo, un agriturismo, però abbiamo mangiato due chiodi. Mamma mia, mi sarete rimpiazzati il bene. No, io ero anche io a Capodanno in giro. Una era a Urbia. Era a Urbia. A vedere Neck. Cappa. Sono fatto completo. Adesso la Madame. Adesso la Madame. Giuseppe, avanti. Kk, beve, io poco fa, se devo essere sincero, avevo capito che quando sei andato là avevi trovato dei fulmini al posto dei funghi. No, i funghi. No, anch'io non mi sono mai documentato, mai interessato, e sinceramente non ne conosco manco io, quindi non mi fido manco a prenderne. Ma io avevo mio cognato che era di Irula, in quella zona ti viene da tuffarti, quanti ce ne sa, Mera, Irula, tutta quella zona lì tutto pieno, almeno un po' di anni fa ce n'era. Il padre di mio cognato ha lavorato sempre in miniera, si aveva preso la casa lì, è ritornato in paese, si è messo 4-5 pecore, così per fabbisogno familiare, basta, non interessava vendere nulla, faceva il formaggio per casa, il latte, queste cose qua. E le pecore andavano sotto questo albero, lo sai i funghi che crescevano, come facevano i suoi bisogni? Ui ui ui, tutto pieno di funghi, antuna, di tutto, prattaiuli. Poi lui sapeva i posti, come pascolava le pecore, sapeva i posti e ci andava a colpo sicuro. Mentre aveva là, ne prendevamo per lì. Poi prima di andare a casa andavamo di nuovo e mi facevo trovare con 2-3 buste di funghi, sempre. Se prima mangiavo il sugo con i funghi, sembrava carne, come buono, funghi fritti, di tutto. E ci credo, già, ci credo. E che se non era buono il formaggio che faceva, Giuseppe, dalle carte delle dita. Mamma mia cara, non mi parlare di formaggio che io lo mangerei giorno, notte, mattina, sera, poi quello fuso, quello fatto sul fuoco, quanto è buono, ieri ve l'ho fatto. Tu sei preciso a me, lui. Io sono per il formaggio, allora a me piace il formaggio sia molle oppure quello duro stagionato che ha il piccante, proprio che sia saporito, bello piccante, bello piccante. A via di mezzo, quello che sembra parmigiano non mi piace. Buono il formaggio. Eia, io lo mangio in tutte le maniere. Basta che sia formaggio, guarda, per me va bene. E pane, formaggio col pane però, Quello piccante è formaggio, pane e vino. Eia. Oh, cambiamo per un secondo discorso, adesso mi è venuto in mente... Stavo sempre immaginando, ricordiamoci che questo mese scade la concessione. Già pagato. Cappa, io vado domattina. Io l'ho pagato, cioè me l'hanno pagato per dire la verità. Ho trovato un'amica prodottosa, ma ha detto, stiamo andando alle poste, di sì. Se ti chiedo un favore, dai, ma non c'è problema, già, non potevo portare il negozio, ma poi l'ho pagato il negozio, col resto dentro una busta e tutto. Hai visto che brava? No, io vado domattina con calma, entro, esco e tolgo anche questo impiccio. Ma io ho pagato, adesso ci sono i bolli pure. Eia, papà, ma per il bollo c'è, non hai tempo sino a fine mese, conviene pagarlo con lo stipendio di questo mese. Certo, però tu mi hai fatto cambiare discorso impiccio, era meglio quello del formaggio. Lo so, però questi sono costruttivi perché quando una cosa è da pagare bisogna pagarla. Anche questo è vero, Rita. Sentito la promemoria? Sentito, sentito, tutto fatto. A posto, Rita. Cagata il 3. Ah, cosa mi hai detto? La concessione. Pagarla io una volta fatto non ci penso più, ho fatto ho pagato, ho fatto le fotocopie, ne ho messo una non di macchina, per quando uso l'apparecchio anche macchina di mia moglie, quindi è giusto che ci sia, fotocopia del pagamento. Beh certo, sono al campo e lo uso, non stai più entrando. Vabbè, anche io in macchina è a casa. Cioè, insomma, lo stavo usando molto poco a casa, più in macchina. Fate una solo per tutti. Ah. Se lo fermano in camion. Mette stata a te. Non so se è valida così, non te lo so dire. Non voglio esistere. Sempre quello che uso in barra pesante, però mi faccio le altre due fotocopie, una la tengo in barra pesante e una la tengo in barra mobile, dopodiché io sono a posto. E l'originale a casa? Dove c'è l'altra? Ieri è arrivata una bolletta dell'Enel, no, dice non risulta pagato la fattura del... Meno male conserviamo tutto. E lei addirittura l'ha pagata i primi di dicembre, da quella fattura che scadeva il 6 di dicembre, e dice che non risulta pagata. Meno male già c'è tutto conservato. Sì, magari sono le poste che sono arretrate, ma... No, ma proprio per quello prima si pagano quelle cose e poi si va a comprare la cosa da mangiare. Vabbè, quelle cose vogliono tutte pagate, sennò da voi interessi su interessi, ti fanno pizza. Certo, ma poi mi suonava male, ho detto non è mai arrivata di questa porcheria a casa. Infatti poi lei l'ha controllato, dice ah no, ma io le pago regolarmente, anche se scadono, che ne so, il 15 o il 20 del mese, lei le paga sempre il primo. E così sono fatto io. Mia moglie aspetta l'ultimo momento a pagare, poi magari ti dimentichi, invece sono più previdente, prendo e pago, quando c'è la paga tanto paga a devi. Quello è normale, già, quello è normale. Il bollo aspetto, ti dico la verità, anche se ce li ho, lo potrei pagare anche domani. Però a Bella gli ho detto, perché pagarlo se posso aspettare sino a fine mese? Mai succeda una qualsiasi cosa, meglio che stiano a casa i soldi. Già. Quello già è vero. Finché sto facendo qualcosa che non va bene, dico, beh, effettivamente hai ragione, e lo dovevo pagare il mese scorso e ancora non l'ho pagato, lì ci sto. Però se ho tempo sino a fine mese, perché darglieli prima? Tanto non ti fanno sconto, non ti fanno niente. Beh, per me il discorso è diverso, perché devo pagare tre di bolli, quindi se ne pago uno prima e gli altri due dopo è meglio, così non ci sono tutti insieme da pagare. Infatti, vedi, c'è anche quello, cosa si vuol fare? Poi la fregatura più grande è che adesso nel bollo hanno messo tutto assieme, il bollo della patente, l'autoradio, che ce l'hai o non ce l'hai oramai, e hanno messo tutto nel calderone. Non si paga più, già si paga lì. Certo che si paga, dicono i bolli della patente, non li attacchi più, però è compreso nel coso, nell'importo della macchina, cavolo, ma stiamo scherzando. Sì, ma è meglio così, se non devi stare con la prima cose, almeno paghi uno, tutto quanto, impari e via. Sì, quello è anche vero, è anche giusto, perché se io l'autoradio prima della macchina la pagavo, c'era il 50% della gente che girava a scrocco, anche se una cosa ti dico, che io per la cosa, la tassa dell'autoradio in macchina, sono sempre stato contrario. Cavolo, già mi state tassando a casa, tra televisione, quanto c'è, e mi tassi anche in macchina, cioè lì siamo proprio alla... a dipendi di cosa, quello è un furto autorizzato. Purtroppo, lo fanno. dritta? Già, mi sta chiamando. Guarda, no, ancora no. Stavo dicendo, cosa si fa per non sentire il rumore? Praticamente è la turbina, no? Quando entra la turbina fa drrr, questo rumore si sente, come a te. La turbina o l'alternatore? No, come gira, molla l'acceleratore e no, e si sente, e non si sente più. KK, allora quello è l'alternatore. Devi mettere un condensatorino nel positivo del condensatore. Non ti ho capito, Giuseppe. Allora, devi mettere un condensatore nel cavetto dell'alternatore. Mi pare che la spesa sia intorno ai 3-4 euro. Ho capito. Boh, qua è un macello. È mezzo nuovo, capito? Ma io mi ricordo quando c'erano le 500, no? Le prime 500 che abbiamo conosciuto noi, quando si metteva l'autoradio era un casotto totale perché sentivano tutte le scariche di come girava, e allora si metteva questo condensatorino e quello lì lo fa sparire completamente. E capuscite dalle cannelle in cui ci mette. Però vedi, io che ho la macchina diesel, quel coso non me lo fa, quel dipetto che sta dicendo Rita non me lo fa, nelle benzina è più accentuato. Se diesel lo stesso, però è molto diverso. Sì, ma non vuol dire, perché il diesel le scariche elettriche non ne ha. L'unica cosa di che può scaricare di elettrico è l'alternatore. Lì anche se lo porti o da un'elettrauto oppure se lo acquistate voi, anche via le Porto Torres, dove c'è quello che vende mobili di fronte al... quanti posso, guarda che dentro c'è anche quel negozietto di cinesi, lì c'è una signora che vende componenti elettrici per le macchine. Entrate e gli chiedete un condensatore per l'alternatore. Però adesso, per dire, eravamo fermi al semaforo, insomma, ha provato a fare i giri del motore, no, a aumentare i giri del motore non fa. Invece come cammini entra la turbina, mette la massa, fa. Addirittura. Solo quando entra la turbina, cioè che invece fermo, motore fermo, che acceleri non lo fa. Non lo fa. E allora può essere, che ne so, lì bisogna portarlo dall'elettrauto e vi fa mettere un condensatore all'attacco e il distacco della turbina. Lì tra il ripilo che arriva lì alla turbina, gli mette il coso, gli mette il condensatorino. Niente di strano, potrebbe essere anche il sensore che porta il coso al contagiri. Avete contagiri voi le camper? Sì. Probabile sia l'impulso che parte per dare l'impulso ai contagiri. È ancora più facile come discorso allora. Perché dell'altro va bene, riceve bene, trasmettiamo bene, cioè. È solo questo rumore che fa proprio durante il coso di accelerazione, no? Sì, ho capito. Sono cose che si eliminano con quei... Non so perché l'hanno già fatto degli amici e l'hanno proprio eliminato del tutto. Un condensatorino grande, guarda, sarà... hai presente una stilo? Pensa che quel condensatorino è la metà di una batteria. Ho capito, poi bisogna vedere un po', perché questo ci abbiamo piantato tutto noi. Eia, perché guarda, se fosse stata cosa di massa, lì anche al minimo l'aveva fatto, quindi il baracchino è schermato perfettamente. E è solo quel coso lì, magari l'attacco e il distacco della turbina. Sicuramente, perché poi, cioè, come molliamo i giri del motore e tutto quanto, non si sente nulla, proprio la senti chiara la voce. Invece come vai a accelerare, senti questo rumore? Sono rientrato, Buonasera Rita. Ciao Enzo, buonasera. Movimento siete? Stai rientrando Enzo. Ecco perché stai arrivando forte adesso. Siamo qua a San Giovanni. Ecco, appagata, e stai arrivando forte adesso. Adesso sei Santiago 9:15 a Radio 5. Ma hai provato a mettermi con la ferrite che mettono i cavi della parte? Non so, state passo stesso. Stefano. Ehi, buonasera a tutti. Ciao, innanzitutto con che apparato state uscendo? Un 48 originale adesso c'è. Allora praticamente si mette la ferrite nel, quasi all'entrata del baracchino, vedi? Nel filo, nel positivo. La ferrite è quella che c'è anche dentro il computer, la trovi, dentro il modem. Oppure mi pare che la prendano anche da Fusaro. Addirittura quella che prendono da Fusaro la chiudi, si chiude proprio ermeticamente e si attacca al filo. E quello lì un po' di disturbi li toglie. Può fare anche con la prova. Guarda, io l'ho cercata la ferrite sia da Fusaro che da Coso, addirittura l'ho cercata anche da Marcito e non li ho trovato da nessuna parte. Se li volete io ne ho due pezzi qui a casa e ve la piattate con tutta calma. Ce la basta andare al quadrato quando buttano via il computer e vai nella KPC o un coso, un modem e te la prendi da dentro. Ma i figli da dove sono stati presi? Del baracchino, volevo dire a Stefano, dove sono stati presi? Cosa hai detto, Anto? Ho chiesto, figli del baracchino, dove li avete collegati? Ho attaccato dove c'è la mansarda, e l'altro lo stai chiesto. Chiappa, noi figli dell'alimentazione. Ehi, uno l'ho attaccato allo specchietto e l'altro l'ho attaccato dove c'è la mansarda. Esercitato, se la prendi. Quando mandi il magno fasciullo. Ti ho chiesto se ne ha attaccato tutti e due alla batteria, o uno o il positivo alla batteria e l'altro alla carrozzeria. No, Anto, l'ho attaccato tutti e due alla batteria. Non lo so. Ma sta male, prendere la carrozzeria meglio, eh. Io l'ho presa la batteria, vabbè. Chiappa. Io ci prendo dalla batteria. Già. Il meno si fa dalla carrozzeria, da un punto, da una pinta, da una cosa lì. Perché fa la scherma dura, hai capito? No, ma la carrozzeria è da a mano. Se uno si fa due giri. Siamo lì, mi sembra. Sì, quello della batteria, guarda, più massa di quella che c'è nella batteria non ci può essere, perché quella è la massa principale, se no manco metterebbe in moto, figurati. Io ci ho attaccato la batteria, va benissimo, no, non bene, benissimo. Ma guarda, io in barra pesante, poi tu la conosci, io già, nel Mercedes ho preso il positivo dall'autoradio e il negativo stesso dall'autoradio, eppure va benissimo. E dipende, secondo le macchine si fa magari da problemi, secondo le macchine no. Io per dire, il 127 ce l'avevo, come ha detto Antonio, quando ce l'avevo sul 127 ce l'avevo attaccata la carrozzeria. Stesso, a quanto pare fa un pochettino da schermatura. Poi il positivo, il più lo puoi prendere dalla batteria, il negativo lo puoi prendere da una vite, da un bullone, da qualcosa del genere. No, non entra nulla, che funzionano ugualmente. Ciao raga, comunque se la volete la ferrite ditemi dove lasciarvela e così ve la piazzate, ve li do tutti e due i cose di ferrite e ve li piazzate come e quando volete voi, tanto a me non serve più. E ormai non so se ti vedi con Gianni, no? Sì, non c'è problema, se vuoi li posso lasciare a lui. Ma sei camionista? Positivo. Ah, rimarcabile o altra roba? Io lavoro con gruppo. Pure se ti viene bene da lunedì, se ti capita di passare in viale Porto Torres, sai dove c'è il deposito dei vetri? Sì. Ecco, di fronte al rifornitore di Murinetto, io lavoro lì. Ah, ho capito, sì. Sì, vabbè, può essere che vediamo un po' come fa a giro anche a me, col camion. Positivo, dai, non c'è problema, tanto io ce li ho, perché buttarli se li puoi sfruttare tu? Eia, eia. Figurati, ci mancherebbe altro, lo sai che quando c'è da dare un colpo di mano si fa ben volentieri. Va benissimo. comunque ho notato una cosa, adesso per dire io sono magari a 2000 giri, no? E sono in pianura. Poi vado, appoggio il piede all'acceleratore, sempre con gli stessi giri del motore, e allora fa trrr. Sto pensando invece che non sia il modulo dell'acceleratore. Mi stai seguendo? Perché il cavetto non ne hanno qui, ci hanno quel modulo là, no? Quella scheda dove scorre il pedale sopra. Esatto, quello lì ce l'avevo stesso il camion più io, non so se l'hai mai visto in giro, è quel Mercedes bianco, quel triassico con la gru posteriore, centinato. No, perché non ci ho mai, però adesso che lo so sicuramente ti avrò a beccare in strada. Positivo, anche a me lo fa diverse volte, perché anche quello lì al modulo, l'ho portato in officina, però l'hanno sistemato. Mi hanno messo il condensatore dell'alternatore, mi hanno detto che anche se male non gli fa, perché sai che sempre qualche scarichetta elettrica ti arriva, e poi lo possono mettere anche lì nel modulo, ma è cosa che ti fanno in 10 minuti. No, ma tutto è arrivare con le mani all'alternatore per essere agitato, come dici tu, le passano bene, capito? Se schermi l'alternatore, poi vai a eliminazione, anche se non è l'alternatore, le passano che bene, capito? Ancora più silenzioso diventa. È positivo te, perché tanto l'alternatore in quei motori ce l'hai proprio sopra, no? E glielo attacchi, perché tu vedi che il condensatore ha un attacco tipo a coso, a U, e quello va fissato alla massa dell'alternatore, no? Molle il bolloncino e quello lo attacchi a massa, e il cavetto che esce da dentro il coso, il condensatore va attaccato al filo dell'alternatore, no? Lo molli di un paio di giri, il bolloncino attacchi a lui e il gioco è fatto. E adesso passo, me lo prendo, forse anche domani riesco a farlo, e glielo metto a vedere, così andiamo a eliminazione. È positivo, guarda, la macchina che ho io è nuovissima, ha un anno di vita, la barra pesante, però giù alla Mercedes, e quando glielo ho detto, guarda, più che bene non gli puoi fare, perché ti elimina qualsiasi rumore che ti può arrivare, cioè qualsiasi disturbo elettrico che ti può arrivare in cabina. E anche per la radio li fa bene, non solo per il baracchino. Caspita, soprattutto per la radio. Ascolta, io mi sa che devo fare un paio di manovrine a mettercelo in garage, se no prende freddo stanotte che gli fa male, le viene raffreddore. E quindi vi salutiamo da questa parte, a tutti. Positivo, ciao te, saluti anche a te Rita, e buon tutto e buon fine, niente, buon fine serata, dai, avanti Gianni per i saluti. Ciao Stefano, ciao Rita, ciao anche le bambine, non rientro a casa, dai, ci sentiamo e buona serata, fine serata, dai, ciao. Salutoni anche da parte mia Stefano, Ehi Antonio, ehi, va bene, tutto ricambiato al centro da questa parte di cuore. Ciao. Anche a Rita e a tutte. Ciao, i bambini stanno dormendo nel letto, se sono nel lettino. Rita è vista che sta facendo manovrina. Ok, ciao, alla prossimina. Ciao, ci sentiamo. Diciamo il coso che se sono stanchi si bloccano, la comodità c'è. Adesso lo prendiamo un camper. E Antonio sempre se vuole prendere questo camper. Facciamo a metà pari. No, le cose a metà pari non vanno mai bene. Io. A parte che non fa. Da parte mia non fa. Magari se lo volete fare voi, non lo so, però io non posso. Io ve lo prendo solo. Vabbè dai, no. Se me lo prendo da solo, dai. Anche io, quelli di modellini. No, io se ci avrei avuto la possibilità me l'avrei pigliato davvero. Tu sabato e la domenica, a Plattamona e via. E stanno a Plattamona poi mi riabburo la macchina. Lo sapete, ma che sopra un campo è diverso, che poi trascorrere la giornata, a posto di avere la casa, che poi trascorrere la giornata, poi metterti in un posticino si fa una rossita con qualche amico, cioè è diverso. Ti fai ogni tanto qualche rullata. Oh. Tanto guarda che ci sono dei camper che costano anche 5 milioni, 5 mila euro, ma non è che costino chissà che cosa. Li prende a seconda mano, all'inizio come ha fatto quel mio amico, ha preso un 238 che aveva anche l'impianto a gas, Giuseppe. Ma dice che andava a Dio, benissimo. KK, guarda, io stavo sempre tentando di convincere Allella a prenderlo questo cavolo di camper, ma non ci riesco, ci sono arrivato quasi vicino, però purtroppo ancora non ci sono riuscito. Lo so, come ti stavo dicendo Giuseppe, questo amico l'ha preso fuori il continente, è andato a prenderlo, c'aveva il bombone di quelli grandi sopra il tetto, proprio fuori dalle scatole, se scoppiava, scoppiava in alto, c'aveva di quegli impianti enormi, ci stava un bel di gas, dice che era tranquillissimo, camminava da Dio. Non era velocissimo, faceva 120, però era 120-130, ha detto, però andava, faceva il fatto suo. Poi dentro l'aveva tutto ristrutturato lui, ci aveva fatto, c'ha le mani d'oro lavorando questo qui, c'ha fare di tutto. L'ha fatto tutto quanto, l'ha ridimensionato tutto quanto, gli ha messo la cucina, l'ha messo tutto quanto nuovo, tutto fatto da lui. Ti dico che sembrava un camper nuovo all'interno, poi fuori, vabbè, era un camper già di una certa età, però poi l'ha dovuto vendere quando si è comprato la casa, infatti lo sta ancora ripiangendo, ha detto che appena posso lo ricompra uno. Beh, infatti, ma io dico questo, cioè mettiamoci in testa che volere o volare il camper è sempre una seconda casa. Penso, è anche una cosa che vuole mantenuta, Giuseppe, deve pagare buona l'assicurazione anche di quello, non è che sia, è una cosa sempre in più, là. Aspetta, quelli lì si possono assicurare, per esempio nel periodo estivo, che ci serve si può assicurare così? Tanto, ma non è che l'abbandoni, comincia a sedersi la batteria, comincia a andare, se lo lasci fermo vai malora, si sgonfiano le ruote, si deformano, io se una cosa ce l'ho, se sono dal parere, vedi Rita, se lo usa di inverno è d'estate. Eia, infatti io se lo dovessi prendere, tanto qui ho solo una macchina, dovendolo prendere lo assicuro per tutto l'anno, ma fanculo, cazzo, si fa un sacrificio e ciccia, e tanto mi cosa stai lì a stare tiro, quando lo devi usare ti siedi, metti in moto e parti. E infatti la domenica se fa bella giornata ve ne andate in giro con lei, la bambina, tanto c'è il posto per dormire, la bambina se si stanca si può far riposare, tutto quanto. Eia, poi invito gli amici a pagamento naturalmente, no? E poi me lo pago così il bollo e l'assicurazione. Ma Lucia, che animo! Bisogna carogna. Scappa. Vedi, io se l'avrei, se avrei avuto la possibilità per prenderlo non avrei chiesto niente. E tu a pagamento, sì, io sì, Anto, io sì, cosa avrei messo la gettoniera e cosa da passare all'ingresso del camper, cazza? Cambiamo discorso, avete visto su internet che ci sono i cani a ratte? Eia, ma è cosa che è destinata a durare per poco, 14,60 euro al mese. E vabbè, Giuseppe, tu ce l'avevi con noi il discorso, altro. Ma mi sembra una cosa un bel strano, boh. Non ti rubi il cane con la finanziaria? Devi pigliare. Rubare con la finanziaria su internet. No, ma se ti dici darmi le balle? Cazzo cane con la finanziaria? Ando da uno, me lo dai. Venito tanto nel canile, cazzo cane con la finanziaria, mio figlio. Oh, il doppio room. Sì. Il deviatore di coso d'antenna è tutto Roger adesso, Cosa ci aveva? Ci aveva che i collegamenti erano alla Gimbation. collegato bene, adesso è collegato e ho 1-1 di stazionare, tutto a posto. E il segnale come sta arrivando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beh, al solito, se non è sonda, sei sempre uguale. Vabbè, comunque che va bene. Meglio così, Giuseppe. Il coso te l'hai comprato la GBC? Ehi, ascolta, però l'ho aperto mi ieri sera, giusto per togliermi una curiosità. E non c'ha niente dentro. C'ha il coso, c'ha una sfera con una molla, questa pare che ha due camme, tipo un albero a camme, no? Per allargare e restringere, e ha solo due lamelline dentro. Ha gli attacchi dove attacchi il PL e due lamelline in ottone. Interessante che va bene, poi che faccia solo bene. Io uno lo metto lì di qua perché io vabbè, ma tanto sto usando sempre questo, l'altro non lo uso mai, che sono i voti. Comunque è molto robusto, è massiccio, non è come quello della Zetadilla, Mierino. Mi se devo curare a capare uno e barrere un capo in due. E pesa 4 inti. Che marca è Diamond? No, è della Proxel, è già. Ah, sembra Proxel. Eia, però ti dico che vanno veramente bene, guarda, spesi bene quei soldi, la verità, sia per l'alimentatore, per questo coso qui. E sono belli, però massicci, ma massicci veramente, proprio, guarda, se li fuori a Cabagacuno, come ti ha detto Antonio, lo picchi in terra. Trovo un apparecchio che mi piace, la base, me lo prendo anch'io, per traslare un apparecchio all'altro. Vabbè, quelli sono nati in definitiva per le antenne, ma possono fare l'altro gli apparati. Tanto il loro lavoro è sempre dividere una parte dall'altra, basta tutto lì, traslare. Eia, infatti li ho presi per quello, anche se in definitiva era... lo davano come scambiatore d'antenna, hai capito? Però funziona benissimo, perché tanto il lavoro suo è quello, che sia antenna o che sia segnale che stai passando a un baracchino, cazzo era matessi cosa. Non viene quell'apparino, mica scherza. Come Antonio? Kilowatt tiene. Cazzo se ne tiene kilowatt, hai detto a quanto arriva? Kilowatt. Eia, cazzo mi un bebè. Poi è massiccio, pesa, così vogliono le cose. Eia, non ti ricordi quando l'ho portato a tuo papà cosa mi ha detto? Cazzo è proprio pesante. No, è fatto veramente bene, papà. No, la verità, ti dico, sono veramente contento. Bello, io ce l'ho qua, guarda, a fianco agli apparecchi, però è di lusso. Gli ho messo i gommini sotto, quelli che metto sotto le sedie, e lui è perfetto. Forse da no, anche il fissaggio per metterlo nel muro, volendo. Eia, le tre biti, Anto, ce le ho nella bustina. Ragazza, metto nel muro un pezzo di legno, che dove... Tasselli mi sembra che non li ho visto. Comunque è veramente massiccio, io ho visto quello della Zetadilla, l'ammierino, quello lì non è l'ammierino, lì c'è ferro pieno proprio. A quel prezzo non li ho trovato da nessuna parte. Cosa? Di quei deviatori d'antenna. Non ce n'è da nessuna parte a quel prezzo, costa un minimo 38 euro. No, Giorgia. No, ma poi sono buoni anche. Vanno bene. Avanti Giuseppe. Ehi, sì, confermo tutto a al 100 tranquillamente e ti dico sono contento, dai, vai, sono contento, e anche se qualche dubbio ce l'avevo, però giustamente ho detto se uno non rischia non fa niente. È andata bene, ti dico, sono rimasto sorpreso quando ho aperto il pacco e li ho presi in mano. Canta giurite poco e pesante che c'ha cosa. Quindi se capita già te lo puoi prendere tranquillamente uno, perché sono veramente belli, belli, belli, belli. Prima devo prendere un'altra cosa. E beh sì, piano piano, un passo alla volta si fa tutto. E io lo stesso, hai visto quanto ho dovuto aspettare per l'alimentatore? Sì, aspettate, non mi è arrivato, lo sai. Capacca, da butte dura. Hai visto, chi mai andava a immaginare che le poste potessero? Ma pizzetta sott'anno se ce l'avevo io, ce l'avevo io. Infatti dicevo, ma cosa lo scrisco, basta staccare la spina, poi la riattacchi e fa. Invece poi va bene. L'abbiamo spedito e è andata come è andata. Chissà che lo trovino, che lo trovi, lo spero almeno. Sì, ma per forza di cose già lo devono trovare, perché non può sparire una cosa così di punto in bianco, dai, che guardiamo in faccia la realtà. E ci sarebbe da fare la denuncia alla polizia postale, perché non era assicurato il pacco, mi ha detto che non lo posso recuperare, e poi se lo trovano dopo va in macerazione a Bologna. Figurati tu, andiamo bene. E quelli di macerazione manco gliene fanno vedere. Poi li apro, secondo cosa c'è, se li bisogna niente, cosa macerazione. Ma è normale quello, no? Ma quello si chiama anche rubare. Si chiama rubare, sì, perché a me non mi è arrivato nulla. Se io ci metto il mittente, deve arrivare al mittente il pacco. Se non trovano dove, a parte che è tutta un'invenzione, perché lì sarà giusto, Giuseppe, io ne sono sicuro. L'ho detta a mia moglie, io da internet c'era, io conosco a mia moglie l'indirizzo, perché se metto lo dico anche adesso, via delle Forze Armate 41. Tecnocomunicazione, via delle Forze Armate 41. Non mi ricordavo il codice fiscale, il codice di avviamento postale, e sono andato a vederlo su internet, e quindi io ho guardato tutto, e l'ho dettato tutto a mia moglie. Gatta, sicuramente loro se lo stanno tenendo lì, fanno scadere la garanzia e se lo fanno ripagare. No, ma loro non hanno ricevuto nulla ancora, si è andato smarrito, e te lo sto dicendo, abbiamo chiamato alle poste, ci hanno detto che è andato smarrito, dal 20 si è persa la traccia. Poi mica ne spediscono di cosa, mi cavolo, l'ho spedito anch'io il coso, l'apparecchio su, ed è andato tutto a buon fine, cioè tutte le tracce perfette, ma secondo me c'è qualcosa che non mi quadra, diciamo. Cosa dice? Ma non lo so, io non vorrei che il pacco sia qui a Sassari. Anche lì siamo andati, siamo andati. C'è la Tagliana a Sassari a controllare, non c'è. Strano, molto strano, perché guarda, se a Milano è veramente, se è arrivato veramente a Milano dietro per forza di cose è ritornato, perché il mittente c'è e la frase è quella, non c'è poco da, cioè c'è poco da scappare, cioè nessuno poi oltretutto se lo gioca a un posto di lavoro o per un baracchino o per un coso oppure per un'altra stupidata mia, già, e diciamocela chiaramente la cosa, e sicuramente dico il baracchino è arrivato, non hanno trovato l'indirizzo, il baracchino è ritornato, il baracchino e l'alimentatore è ritornato indietro. Milano 3 è arrivato, perché sono andato io a vedere la traccia. Milano 3 è arrivato, c'è scritto in restituzione. Oh, vedi, vedi, e allora stai tranquillo che lì la traccia non si trova più, perché il baracchino è rientrato qua e sono loro che non lo vogliono trovare qui a Sassari, perché se si mettono un attimino d'impegno il baracchino te lo tirano fuori in 10 minuti, l'alimentatore te lo tirano fuori in 10 minuti. E adesso ci sta pensando quel mio amico, vediamo un po' se riesce a fare qualcosa, lui è vice direttore, quindi già può fare qualche cosa. cose. Poi mi è una curiosità, tu quando digiti il codice del pacco, che cosa ti dice? Se dice il posto dove si trova. E mai adesso lui che cosa ti dice quando fai quel codice? In restituzione. In restituzione, ma non ti dice dove o in restituzione così generico? No, ti dice che praticamente da no, ma è dal 20 è questo qua, poi non ti dice più nulla, dopo il 20 non sanno più nulla. Allora, dal 20 era restituzione, da Milano 3 non lo so se è restituzione al proprietario, se la spiega. Ascolta, ma giusto perché poi devo fare una precisazione io non la voglio fare prima che tu mi dia una risposta concreta. Allora, diciamo, se tu adesso ti siedi al computer, ok, entri sul sito e digiti il codice del pacco, che cosa ti dice? Restituzione, il pacco. Però non ti dice dove, se ti dice Milano 3 restituzione, però che lui ritira la data del 20 di cosa, di dicembre. Cioè non è che adesso quando vai ad aprire il sito e digiti il codice del pacco, non è che ti dice pacco o non reperibile o una cosa del genere? No, lo dice, almeno adesso non l'ho fatto, però, me l'ha fatto quello delle poste e diceva così, mi ha dato anche la fisciata, praticamente la cosa, la fotocopia. Lo sai perché ti ho detto questo? Perché quando è arrivato qui a Sassari il pacco che ho ordinato io, quando sono entrato nel sito internet mi dava pacco non reperibile. Sai perché? Perché era arrivato qui alle poste di Sassari. Non reperibile. Ti è arrivato. Cioè non reperibile più nel sito perché il pacco è arrivato qui alle poste di Sassari, mi hai capito? No, ma io guarda, ho seguito mille volte queste tracce qua, mi diceva in consegna, mi diceva Milano 3, poi da Milano 3 il giorno dopo guardavo in consegna per Sassari, al mittente. Questa volta è tutto un casino, cioè tentato anche quello delle poste, ci abbiamo detto guarda, dal 20 si sono perse le tracce, non si sa più nulla di questo pacco. E allora il pacco, sei tranquillo che è posteggiato alla SDA, perché le poste hanno dato tutto in appalto alla SDA, sicuramente qualcuno ha scaricato il pacco ed è appoggiato lì nel deposito, lì a Predamieta della SDA. Ma no, abbiamo fatto anche quello, abbiamo chiamato, l'SDA dice che il numero, quello lì è delle poste e non è suo. So, però l'SDA consegna per conto delle poste. Non tutto. C'è qualche cosa magari che non consegna. Perché questo qui è il numero postale, quindi si interessano le poste di questa cosa qui, non è il numero nostro, il nostro non inizia così. Ho capito. Il mio iniziava con CK, mi pare, una cosa del genere. E c'erano dei codici particolari che secondo che codice appartengono alle poste, secondo che codice lo fanno loro. E adesso ci siamo interessati di tutto, Giussi, abbiamo girato, abbiamo busturato tutto, non è che siamo rimasti incantati. Non ce l'hanno, c'è andata anche mia moglie, via 25 aprile a vedere se ce l'avevano. Ce l'avevano. E non ne hanno. Abbiamo chiamato le CDA, abbiamo chiamato alle poste di Milano, alle poste di Roma e mia moglie è stata un giorno attaccata. Ho capito, quindi questo pacco diciamo che si è volatilizzato. Pazienza, se non bisogna mai di dire ci hanno curato. Avanti, ci vanto. Ciao, se non bisogna i medicini di graziate. Quando mai bisogna rubare? Però non è giusto, io comunque una denuncia l'avrei fatta perché non va bene, dai. Cosa denuncia? Non c'è nulla in mano, lo scontrino glielo spedito a loro perché faceva garanzia. Mi ha detto mandami lo scontrino, gli ho spedito lo scontrino a loro. E insieme all'apparecchio, non c'è nulla in mano, non mi rimane una cerca perché me lo dice che lì aveva questo apparecchio che era spedito, eccetera, eccetera. E c'ho la carta che mi hanno dato apposta e buca. Cappa. Però non va mica bene questa cosa. La prossima volta ti fa la fotocopia degli scontrini e tutto quanto. A Romanco, il ghiacciatore ne ha gave, perché non va bene. No, l'ha assicurata la prossima volta, non la faccio più se la sono assicurata. E così me lo devono pagare loro il pacco. Anche così, se lo fai così, che perché dare la fiducia e poi mettersela nel dietro non va più bene. Allora prendi la sicurezza, se ti dica che conto un capo di posto, me la paghetti. Tanto quanto ci vuole assicurare la roba? Ma non so se ci cura in più, una fesseria. Ma comunque, Antu, non è giusto che anche se non è assicurato il pacco non si piglia la responsabilità, perché lo stanno maneggiando loro, loro devono vedere chi l'ha preso, dove l'hanno portato, devono vedere la traccia loro, effettivamente, se no lo dovrebbe fare la polizia postale questa cosa qua. Se ne manda il pacco, allora ce l'avevi tu, dove l'hai portato? Io l'ho portato qua, se non è qua deve essere là. E va a fine che si trova pure. Ciao. Già, per evitare tutto, sanno quelle 5-10 euro in più che se la pigliasse nel dietro, però se te lo sbarriscono te lo pagano anche. Ti fai, ti prendi tutti quanti gli appunti, ti fai le fotocopie dello scontrino, di tutto. Sì, se succede, allora, non sai come vanno queste cose. Se la gente può pigliare, ma non sai che sarà può pigliare. Succedeva che cosa ve la paghi, però almeno non ci perdi niente. Quello sì, infatti. Beh, diciamo che quello era un alimentatore che ho preso per il fisso così, perché ho visto che era 50 ampere, ho detto forse per servire. L'ho preso, lo usavo, sì, ma va bene anche questo che c'è tranquillamente, però mi dispiace perché era un bel alimentatore, mi piaceva come estetica e tutto. Ciao. Ma le prese in giro sono, non vanno bene, infatti bisogna pigliare per andare drasticamente. Se tu dica che cosa ti rompai, sono scherzi tuoi, non sono più fatti tuoi, cioè ho sbarrito, non so quanto ci passa, pigliati un pagane. Alla fine tocca andare così, visto che l'esperienza è quello lì, è un allenatore che mi sembra che costi un centinaio di euro, che non sono nocciolini neanche. Costa 135 euro esattamente. Io le spese di spedizione che ho speso per due volte, per tre volte, perché ho speso tre volte, immaginate quanto ho speso per quell'alimentatore. Hai pagato il biglietto di mille due. Ho pagato. Avrei a vedere che la prossima volta no, non ne avrei più fatto questo genere. Se hai assicurato tutto bene, avrei assicurato il pacco. Allora se non vedete ve lo paghi, ve lo pagate, perché alla gente tu le devi fare così, le devi fare. Perché altrimenti sono sempre i soliti stronzi. Siccome ci sono stronzi in giro, allora bisogna farli pagare. Quando rompono le cazzole. Se ne fregano le palle di tutto. Questa gente che c'è, che lavora lì, magari sono più ladri di là, se vuoi dare un pacco per l'Italia, si ammide se lo vuoi. Ma siccome c'è, esiste gente così, allora bisogna castigarle, se lo prende un pacco, voglio vedere se le conviene a loro. Tanto passo la pazienza, cosa deve fare? Mi ci mette al cuore in pace e buonanotte. Ma metti qua in pace e via, però cose del genere più a Romanco bisogna 30.000 che sta niente, ma chi chi è che va a pensare a tu che ti smariscono il pacco con tutti i pacchi che girano e arrivano e vanno e vengono? Mia moglie fa delle ordinazioni che ne arrivano 4-5 volte al mese anche di pacchi. Non si è mai smarrito nulla, mai. Mai. E le porta di sedia lo stesso, tutto tanto. Mai è successo niente. Uno che ha il ladrone in chimica travaglia a Milano, ha il ladro della CDA che si rimuove in busciacca, in gosso. Sicuramente c'è qualche ladrone, esistono, purtroppo, e infatti bisogna castigare il ladrone. Se c'è scritto restituzione al mittente, Giuseppe, hai ragione tu. Deve essere stato spedito da Milano verso Sassari. Questa traccia qua però si è persa. Eia, quella traccia si è persa, sì già, perché arrivati a un certo punto, una volta che lui è sbarcato di nuovo qui in Sardegna, è qui che è stata persa la traccia, perché da Milano quel pacco è partito, se no non c'era stata la traccia in restituzione, mi hai capito? Cioè, una volta che loro mettono in restituzione, la pratica è stata già evasa e il pacco è stato rispedito al mittente, mi hai capito? Sì, restituzione al mittente c'è scritto. Se te ti fanno scrivere al mittente, te lo fanno scrivere perché se c'è qualche difficoltà te lo rispediscono a casa. Ti mandano l'avviso, tu vuoi che te lo ritiri. E io ti sto dicendo, guarda, mi vorrei sbagliare, perché potrei anche sbagliare, però a me nessuno mi toglie dalla testa che il pacco è rientrato qui in Sardegna. Però se scade la cosa me lo devo tenere a casa e basta. Perché adesso non me ricordo, ma mi pare che mancasse un mese, che scade sia a gennaio. La garanzia. E vabbè, ma arrivati a un certo punto già, a far Napoli la garanzia, però mi sono sempre recuperato l'alimentatore. Mi facendo luce, difettoso com'era. Ma Desiria mi aveva detto che quando glielo spedivo, me lo spedivo a quello nuovo direttamente, così non c'erano problemi. Non me lo faceva guardare manco da Mauri. Guarda, è che c'è quel coso delle poste, quella storia lì di restituzione, se no mi andava da pensare anche male, va. Il tuo spedito? Mio? Di cosa? Ho parato. Ah, non lo so, no, non credo che si sia mosso ancora Gigi. Così almeno. Una volta che lo apre, poi lo apre il portiere, che cosa può essere? Eia, adesso facciamoci uscire queste feste e poi si riprende tutti quanti a coso, a lungo giro, a lungo raggio e niente. Ma credo comunque che in settimana debba scendere Gigi, se non ho capito male. Tu non ci arrivi fino a quella zona, vero? No, io no, ma manco lui, loro si trovano a Macchiaretti dove scendo io. Comunque non c'è problema, anche perché lui, ripeto, mi ha fatto capire proprio, no, dallo a quella persona. Quindi presumo che un motivo valido ci sarà stato perché abbia insistito così tanto di darlo a quella, o forse lui vuole lavorare solo con una persona al posto di avere un sacco di gente in giro, mi hai capito? Per mantenere l'anonimato. Può anche essere, io ho pensato anche quello, perché mi sono offerto di scendere io, di portarglielo io, e mi ha detto no, lo devi dare a quella persona. Boh, e non mi ha dato coso, nessuna via d'uscita. Lo devi dare a quella persona e basta. E vuol dire sono d'accordo. Antonio. A un certo punto va anche bene, perché sarà anche il capo dei suoi sicuramente. No, ma già, se entra in Managhizzo già la giusta, no, non è quello il problema. Vabbè, si deve fidare anche di una persona, perché insomma, tante persone non vanno neanche tanto bene, perché poi uno non conosce chi è l'altro, non sa che carattere ha, cioè, tutte cose. Eh beh certo, quello è normale, però poi arrivati a un certo punto questo non è che sotto casa sua si può trovare la processione, oh quello è pronto, oh quell'altro è pronto, oh che dacchio gatto me l'hai fatto, e cioè arriva a un certo punto che poi non ti ricordi manco di chi è quello, di chi è quell'altro, invece a quanto mi ha fatto capire lui, una persona basta. E lo facciamo così. E così abbiamo fatto. Ciao, ciao. Oh ma... Già la giusta, se entra in mano a lui già, cioè deve entrare in mano a lui, perché deve essere lui la giusta, c'è poco da discutere. No, è un sciacquetto, no, come si dice. Eia, eia, beh signori, per me la pappa è pronta, eh. Adesso vado a mangiare, così nel frattempo mi scarico anche la posta. E niente, dai, se coincide, se ci siete ancora e se tutto coincide, ci sentiamo dopo. Pappa Giuse, dai, ho un carico, allora. Siamo qua. Tanto tu sei ancora il figlio. Quando rientri? Lunedì. Sì, allora ne hai ancora. Cioè domani, poi sabato, domenica e poi si rientra. Il è fatto riposo, non ti puoi lamentare. Mamma mia, guarda, anche troppo, boia, anche se mi ha telefonato, ci siamo sentiti con ragioniere, perché lui ha il telefono della ditta. Kappa, vi siete mantenuti in contatto? Eh sì, mi ha tenuto in contatto perché da su hanno voluto sapere altre cose, perché per quella storia là la cosa sta andando avanti, mi hai capito? Quindi ho dovuto dargli ulteriore documentazione perché quella storia sta andando avanti. Kappa. Vabbè. Qualche volta ti darei alla guida, qualche volta lì. Ma vediamo, adesso vediamo come si mette la cosa, perché secondo come si mette, se c'è da guidare, ho l'impressione che ci rimanga poco tempo. Infatti, è solo che mollare il camion adesso che è nuovo, ha un altro, un po' dispiace. Beh, dispiace sì, cosa devo fare? Tanto me. Secondo come la prima cosa che faccio, ne tolgo subito l'antenna, e la stampa già è un attimo, toglierla, poi per il resto ciccia. Vuol dire che mi metterò la cosa, l'antenna giù in stabilimento, metto una cosa, anche una storm va bene. Ma tu, se lo vuole l'apparato, te lo vendi, è quello che lo prende. E se mi dai tanto io te lo lascio l'apparato in cosa in casa. Poi che quello lì case dialoga ancora con i tamburi, con i tantam, e figurati se ne sa di baracchini. Lo sarebbe per me una bella antenna, alta e cose in stabilimento e comunicare con il camion. Vabbè, ma quello, per quello magari no. Ma secondo come me la metto? Me la metto perché tanto ho la scala per passare da dietro e lì è alto mi lo stabilimento. Cazzo, gli metto una bella storm, lo sai come esci. Che la storm magari quella che si è pensato Giampaolo Silvestro, quella lì va meglio, la Ringo. Anche, ma vorrei un qualcosa che non si noti molto dalla strada, mi hai capito? Perché tanto poi vengono a farti visita prima o poi. Beh, quando ti fanno visita c'è la concessione in mano. No, visita altre persone. Ah, kappa. Perché la storm era ponichiva e pari un coso, un parafulmine, un manico di coporo, se no l'avrei messa sì l'antenna, soltanto ho già il discorso che nella zona anche dove da nell'occhio, hai compreso lì un salto e sei dentro, cazzo ti inizierà a fare tutto e quello mi dispiace. Fedito Giuseppe. Ti vuole un baracchino in ufficio e di buona modulare. Cavagava, boia, tanto ce ne sarà di tempo mi per modulare. Cro. Cappa. Non sto facendo niente. Al limite Giuseppe, ho fatto intendere appena di più. Ti buone sotto la stufa e via. Sì, attacco il condizionatore che c'è come lineare, a fare vedere come è una schioppettata. Oia, esce andare esce che è già la terza volta che mi chiama. A frappè, ciao ragazzi. Ciao, ciao Gesù. Ciao, ed è vero che lì bisogna... Meno nell'occhio si dà meglio, Poi sono lì da chi sai, ma... Frequentano tutte quelle... Ma tu? Chiappa. E magari se la metto sotto il banco, lì dentro, quando non c'è da fare niente, lo mette in ascolto, qualcosa e via. Tanto come forse te l'hai compreso che non ha di tempo di fare queste cose. Non ne ha. Se rimane lì ce l'avrebbe. Ma rimane lì ma deve fare i suoi lavori, non è che deve rimanere lì senza far nulla. C'è il suo lavoro lì da fare in ufficio, c'è la responsabilità e tutto il personale. Già so tutto, Gianni, già so tutto. Vabbè, quando ha 5 minuti di tempo, che uno può fare, magari si mette anche ad ascoltare, non è detto che deve stare un microfono in mano, e ci passa il tempo. Sì, ma non è così, arrivano clienti e cose, non ti devi acciappare col baracchino in mano, È un ambiente dove lì circolano clienti, devi fare la fattura, devi fare tutto. No, quello sì, non è quello il problema. Però cioè, magari in quei 5 minuti che hai tempo, o lo metti solo in ascolto, nessuno ti dice niente. Ma vedrà lui cosa fa, non voglio interferire. A me al lavoro non per dire, io potrei mettermi nel furgone, eppure non me ne fate dei buoni. Non te ne fanno mettere. Però io potrei farlo, mettervi l'antenna magnetica sull'attaccaccio di sigarette e me lo metto in ascolto e mi ascolto la gente che parla. Adesso puoi dire che sono parlo Silvestro, tutti quelli a produttori. E fai quattro chiacchiere, dai, ti passa il tempo. Sì, ma non te ne fanno mettere. Ah, se ti vedi il baracchino guai. Oh, ma siamo con la radio. Chiappa, è perché secondo loro tu non lavori. Poi cosa c'entra? Uno può anche ascoltare, non è che... Ma quando ce l'avevamo noi per un periodo, adesso non fa. In moto, cioè la maggior parte delle volte noi ascoltavamo, non è che andavamo a modulare, no? E mai so cosa ascoltate? Ma stavolta già ci portiamo il portatile, questo non va in qualunque. Usate come spia. Ragazza. Me, a Lucrezia. Ancora. Buonasera a tutti. Antonio, hai controllato su Facebook se sono arrivate richieste d'amicizia? No, negativo. L'hai controllato o te ne sono arrivate? Non ho, sono qua e non ho controllato ancora. Ma la dovrai. E chi è che l'ha richiesta d'amicizia? Guarda chi è. Gappa. Sono chi è ignora come fai tu? Cosa vuoi gioco? Vai, te l'ha mandata. Prima guarda se sono buone a tu. Se vediamo, va. Andiamo a accendere a Ciccito. Sta accendendo adesso. Allora, aspetta, scusa già. Allora, devi accettare quella con il cognome iniziale, quella con il nome iniziale no, col cognome iniziale. Quella con il nome iniziale, lì con la scatola. Chiappa. Adesso vediamo se mi aggrada che ha accetto. Fai giù. Ma uno ribatta quello che vuole, avanti Giuseppe. Cosa ho fatto a mangiare? Gianluca. Beh, a me non me ne mandi due o tre. Insomma, da lui chi è già? Non sono donne, sono ricco, dai. Che bagatto. No, pensavo fossero femmine. Ah, no, no. Se vuoi dici qualche trans, ma... No, no, no. No, te ne dici. Uno che per problema dalle palle... Ci ho messo un bel tempo. Mi chiamava sempre, sempre. Subadù, da tutte le parti. Ma io non aggiudassi, questo mi ha fottuto a me. Poi ci metto io su Facebook, soldi, esclusivamente per giocare, punto. E io quello non lo faccio. No, io chatto, c'ho amiche, c'ho cose, ho amici, chatto. Esitare, sopra un pochettino, ecco. E si conferma. Già, ognuno fa quello che vuole, io voglio andare a giocare al poker. Tanto se perdo sempre. Ma io non ho fatto di poter fare ciò che vuole, ma a me stare lì a giocare non mi fa. Farmi quattro chiacchiere mi sta anche bene, ma giocare non faccio più gara di giocare. Evitato, farò lì, vedo mia moglie che si assisa con le mucche, con l'iso, con l'altro. Ma cosa, tu non guadagni niente. Ambetta, ma no. I miei giochi sono giochi, vabbè, quei due giochi, quelli delle palline, queste cose così, oppure qualche gioco di macchina, qualche gioco spara, e poi poker. Zuma? Sì, quello delle palline. Animale. No, quello delle palline colorate che devi far scoppiare e devi fare sì che prima che scendano nel buco che cadano dentro devi farle saltare. Ah sì, sono in base, sono troppo impegnativo. Quello è Zuma. Io lì l'ho fatto per un po' di tempo, però bravo, però poi mi assila, l'ho fatto per un po' e poi mi ha rotto le scatole. Non sono molto buono per i giochi. Vabbè, uno fa quello che vuole, capito? Vabbè, tu lui fai. No. Andava. Va bene. Io ripeto, tanto giocare a poco. Ma se io ho detto, ho perduto tutto, lo so, come un cacchio. Non trovo male, va. È andato buono. Ah no. Cosa? No. Zuma. Cosa? Ma non metti ce l'ho tu? Sì, non li accettassi, dai, non hai compreso. Ah, non ti sbagli. Mica lo devi dire a me. Non problem, cava. Poi è nuovo e tutti quelli che aveva li ha mandati. Qualcuno l'ha scartato, più di uno. Ciappa. Vorrei, ma no. Ma è riuscito di bare di guazzi? Non c'è problema, io ne ho tanti, non so se non ne accetto, tanti. Un bel. No, ne accetto. Posso anche la privacy. Perché io, quando la prossima mi va, è buono. Poi va bene. A rompere le scatole. Sono che ne ho tanti al poker, mandami chips, poi quando mi danno i reddi non trovo il manco di gaggari. Vai, fatti malissimo, va ignoro. No, ma poi io sono al parere che l'amicizia si dà proprio a gente che conosci bene e cose, perché poi vedono tutta la tua vita, praticamente i viaggi che fai, tutto quanto, vanno a vedere le fotografie, cioè scoprono cose di te che tu magari non vorresti far sapere. Sì che gente che è amica, cosa va anche bene, ma gente che lo fa magari per malizia, per cosa. Ma quello sono problemi tuoi, se metti foto lo metti foto. Poi dipende a che aggiungi, anche quasi è vero, ma chi mette foto sono problemi tutti, no? È colpa degli altri. Io devo dire tu, lo so. Ma parlo pure, io cazzo contatti che hanno 200, 300 foto, 400 foto. Quando parlo con l'Asciudini. Questo era poco con tutti i cazzo in costume. Per carità, guarda. Non come, ma c'è come ti hanno fatto, guarda, non è un'idea. Sciudini? Simone Asciudini. Non la conosco. No, ma io le foto le metto, mi fa anche piacere farle vedere agli amici, però agli amici, boh, basta, non alla gente che non conosco. E poi lascio un assodini, sta la foto che c'ha al mare, in costume, ma un pacco di viti che non vuole mai a dirlo. E quello si mostra la posta. Ma ti capisco, ma tu hai le buone foto del genere, poi quale commenti si offende? Ma. Perché si trovano persone che non stanno a girarsi attorno. Lo dico direttamente che so che pensa. Comunque è molto in gamba quella persona lì, eh. Però no. Tu, ognuno di voi vuole dirci bene di Biazzi. Lo stavo dicendo già, questa Simona gioca in Serie A, pallone, la scuola femminile, col Torino. Ah, c'è un bel fisico anche. Un bel fisico, si va a vedere il gatto in costume, insomma lei sia al 100%, ma un 80%, dai, fa il fisico. Sordini, Sierra, Osca, Domodossa, Italia, novembre, Italia. Sordini, ho capito. Simona Sordini. Guarda, ma so che c'è la privacy, mi rimane l'amicizia, te l'accetta? Capacchetta. Cioè c'ha un po' di mille amici. Quelle che ti piace mostrarsi. Sarà con De Santi, si aspetta. Paul, come si chiama Paul? De Santi, vediamo un po'. Ecco qua. Paul De Santi, Paul De Santi, guarda. De Santi ha, guarda, guarda quanti amici ha. 4.629 amici ha. E infatti ha dovuto aprire un altro Facebook per accettare amicizie, perché in quello che c'aveva non ci stavano più. Ce ne stavano tanti amici già. Beh, tu lui che c'ha tutti questi amici, poi bisogna avere sono di amici e di chi sei. Che da buia di padre ti culoli. Non lo so, io so che ce ne stanno tanti. Io ho molte colleghe. Molte colleghe. Molte amiche. Qualche amico. Di colleghe ne ho parecchi. Niente, già la base. Domani. Per fortuna ci abbiamo passato tutto. Oggi sono anche uscito, sono andato a farmi un giro in moto. A farla girare un po', mi cazzo mi stava già. Ha messo in moto subito come l'ho messa in moto. Poi l'ho spenta perché devo alzare la sera e la sera mi si alza con la chiave. Devi spegnerla, poi abbassare in dentro e si alza con la chiave. Ho alzato la sella, vado a rimettere in moto la batteria, bu bu bu. Oh, la batteria mi sta partendo. Perché era già 3 settimane che non lo mettevo in moto. Adesso mi l'ho messo in moto e ho fatto. Poi meno male che ha fatto un colpo, bu bu bu bu, boom, e bussi in moto. E da lì sono andato, ho fatto un bel giro e l'ha caricata bene. Beh, già te la mia, adesso mi ho piccato. Scusa, quando ce la entro ne escono, è chiaro, perché non rimangono, ne escono già dal quadro. Adesso dove piccato e l'ho lasciato qua acceso. Cazzo qua, la batteria nuova, perché c'è la numero di numero con la batteria. Vado, non partia. Adesso ho fatto girare un po' e si è ripreso con la male. Non partiva più l'accensione. La mia già girava, ma non metteva in moto. Ora è ingolfata, perché ho accelerato, come ho messo in moto ho accelerato subito, forse ho sbagliato quello e è ingolfata un po'. Tanto. Ma sei da Porto Torre, se avete sentito, già di doppio rumo in compagnia di Luca e di Antonio Bombo. Non ho capito chi tu sia, avanti col cuore dritto. Arcibal, K, la che è la moduli di Porotore, esatto. Sono basso qua. Ma perché arrivi molto basso? Che tipo di antenna stai usando? Ho detto che arrivi molto basso, che tipo di antenna usi? Ma Luca, vai a vedere se l'ho sentito, ma io non riesco a capire cosa dice. Archibald. Pagappa, dai. Non so con che antenna stai uscendo. Stai uscendo. Stiamo volando da via Ettore Sacchio, da via Sassari. Dovresti arrivare bene qua. Perché io per portatore sono favorevole, però ti sembra molto basso. Comunque il produttore si sta risistemando tutto. Diciamo che molta gente sta rientrando, va. Immagino che possano essere Giampaolo Silvestro e tutta quella gente lì, dai, tutti amici. Ci sarà Alessandro, poi ci sarà Gianluca, tutti quelli lì. Di tre la radio ti posso dare i due, guarda, adesso, perché poco fa era proprio a livello QRM. Non so come ti ascolti Luca, però per me è così. Comunque la stazione doppio 1 durante, che ti supercordializza. Avanti Luca di nuovo. Luca, lo ascolti la mia. Basso, basso. Ti porto attore, se mi ascolti. Quando arriva molto molto basso qua, non so che tipo di antenna sta usando. Pronto, io non lo sento. Io sì. Scappa. Controlla il cavo, il PL, date una controllata, non so che tipo di antenna tu stia usando, ma. Dovrebbe essere, se ce n'è da molto tempo, controllate un po' il cavo, il PL, questa roba qua, magari si è ossidato e te la manda in corto. Se hai un Rosmet, controlla le stazionali, vediamo un pochettino se è anche quello. Va bene. Fai pure, non siamo qua. Avanti Luca. Quanto riprendi? Antonio! Maria! Antonio Bombolo, che fai? Antonito! Ma senti che ti chiamiamo! Va bene, sicuramente! Avanti! Tantino, ma non tanto, Che tipo di antenna stai usando? Una Grand Play? Scappa, dai, mettiti una bella manto, ma così ti ascoltiamo bene. sulle, si è piazzato l'antenna nuova, e se l'ha messa sul tetto, e adesso arriva a Sassari, arriva al Ghero, arriva a Sassari, insomma, qualche soddisfazione gliela dà, non dico tantissime, ma è un'antenna che va meglio di quella che aveva. Ma chi è l'amico che non ho capito? chi era? Non è un amico Apollo Prospero, mi ricordo anche il nome nativo, dai. Scappa. Ma è un attimo qui. Ok, dai, lo saluto l'amico. Aspetta un attimo che devo dire una cosa a Papo. Sì. Ma saluto. Dai, Gianni. Sì. Sì. Le ruote stanno allargando e poi le ruote si stanno da fare. Cappa. Ah, sono contento, dai. E anche io. Un altro apparecchio spolverato. Adesso dice che li mette in mano, vede un po' se quest'altra la si può recuperare, se la si mette nuova. Perché lui aveva chiuso perché faceva TV White. Con la Grand Prix in poi, un casino quando è così. Quella TV White è terribile. Capito, hai io. Ho già. Purtroppo un po' di gente ha smesso anche per quello. Sì, ma adesso il problema è che non esiste più col televisore digitale, quindi ha detto che si rimette tutto. Sono contento, dai. Era ora. Sì, ma secondo me è Giampaolo che ha fatto muovere tutto al produttore, perché lui è l'unico forse che ha mantenuto sempre questa passione di appunto. Lo vedevo come la persona indicativa per la passione della radio. Ma io dico la verità, da un po' di periodo questa squadra sono molto contento perché ci sta andando alla grande. E speriamo che continui e che sia un piacere per l'ambiente. Dove ti dico? Bene, avere tranquillità come siamo adesso, essere in tanti, però essere tranquilli, poter esprimere la propria opinione senza che nessuno ti rompa le scatole, quello è che è importante. Gappa, gappa. No, persona che mi sta sul coglione. Vabbè, non voglio commentare, ma sono incazzato adesso. Ma riguardo a quell'amicizia? No, no, quella lì per carità. No, no, riguarda un'altra persona. Che modula? Sì, vabbè, lasciamo perdere, dai. Sì, vabbè, non ce ne so. Ma sono in due che mi stanno sulle spalle. Ma veramente? Io vabbè, la povera Italia. No, non tanto quanto quella lì, no, cioè, che si capisce. Ma un'altra persona, altre due persone. No, non voglio più fare commenti, dai. Ti mangio, ti ho già capito. Ragazzi, lasciamo perdere. Noi siamo sul nostro posto e loro siamo su loro. Allora non sento manco più io, nei nostri canali. E basta. Ma adesso di qua, tranquillo. Cappa cappa. No, vabbè. Non è tanto quanto rivolta a, non è tanto quanto a quella principale. Rivolto ad altre due persone che non voglio fare i nomi, non voglio manco dirtene, vabbè, lasciamo perdere che è meglio, che è meglio così, dai. Sì, vabbè, è una questione sempre personale, ma ognuno può avere i suoi pareri, le sue cose, grappa grappa. E io voglio essere l'amico di tutti, possibilmente. Ma cappa, qua chiudi il discorso che è meglio, va. Ma vediamo di meritare in forno. Buona, Che buona. Fai il zebedo che non avrai mai, che morbi d'amore, da tutto. Ma più che in forno, tanto fatta in gratico, oh, mamma mia, con lo zusato sopra, Cappa. Eppure adesso mi è tutta una cosa, come si dice, vorrei mangiare, ma uno come ha fatto lui in una fragravica. No, quello lì non è grebo. Ho mangiato i calamari, io da poco fatti così. Calamari, poi cosa avevamo fatto? Roba di mare, sempre. Questo è il mio articolo così. Mi piacciono di più fritti. Si affacciava. E così è. E purtroppo. Già sono buone. Dai, aliolate al sale. Calamari aliolate al sale, lo hanno fatto così. E i gamberi. La giappa. Ma già sono buono. Tanto lo sai che quando appare tutti a tiri francesi. Vero. Oggi l'ho sentita un po' di propaganda. C'è l'apparato acceso, devono andare a controllare quella stufa, Natalino, e si intendiane. È un po', appassiamo un amico che ti lascia bene, così non mi sento, che vuole vedere tu sì. Vuoi che faccia la ripetizione? È probabile. Ragazza. Ma non mi ritendi oggi che vedrà le canzoni strane? E prima posso dire che sei sassarissimo. Prima che sei sassarissimo, la buia a buccio tristi che quella lì poteva ancora andare. La buia a buccio quella del mare, aspetta. Ma non mi trovo che per le canzoni, ma di quelle... Non sono la spiaggia, quella rima. Tu lo sai, na, na, na, che si canzoni antichi di 50 anni fa. Negli anni 80 o 60. Ma lì si sarebbe più... ha messo canzoni proprio dell'anno 3. Scappa, ma facciamolo ridere, dai. E invece voi, cazzo, cos'è l'ultima canzone in voga questa? Le pinne fucili di occhiali, d'occhiali, a buccio con le pinne fucili d'occhiali, nanani, nanana. Dai, fa ridere, cazzo. Sì, ma le canzoni deve essere una persona di una certa età. Sicuramente, dai, e voi, che se ne già ridete sotto. Non deve essere più giovane, a meno che mettere la canzone del nonno, perché da pure è buona appuccia, Giovannino Giordo, ha messo la melinzana, tutte canzoni così, poi sentiva anche un bel mare. Dai, dai, dai, no. Non vuole visto. Non ve la nicchina, la guaracchina, non ma come? Ma se ti sei la musica gratis, c'è il precario, la corrente, ma fa l'entendì. Dai, cazzo. E adesso ti trovo l'altro giorno, che se la conquista a cazzo di campone, poi a cazzo, usa l'accino, non so più che cosa. La l'accino. Chissà canzone, cazzo, mamma mia, cazzo. Aspetta, ne ho messo anche una... Tu vuoi fare l'americano, non americano, non americano, quella lì ha messo. Cazzo, che buzzone, trozione, cazzo. No, il segnale è forte. Chiappa, io una volta l'ho sentito... La guardia sono scala qua. Ragazzo. Ma deve essere qualche scorreggione invece. Le canzoni erano migliori quelle sassaresi degli altri che ha messo. A me queste sassaresi erano che erano più diciamo più nuove delle altre. Oh, mamma mia. con le pinne fucili d'occhiali, già se non mi temo, con le pinne fucili d'occhiali, non è mai una forma tavola blu. E qua, Bobby solo. Dai, dai che fanno ridere, fanno cagare. Allora andavano in voga con le canzoni lì e lui ha messo quelle. Che ha fatto? Poi bisogna... mi ha dato se vado a ascoltare il radio, che... E poi più parlava più la metteva. E buone buone, era così vedo la corrente. Ma la radio è para. È per baracchi. Questa gaffa. Poi non c'è niente da perdere. Ma mi sa che non la metto tutti i giorni però. Oltre tutti i giorni questa storia. Ma io l'ho sentito spesso, non tutti i giorni, ma la mettevo anche sul canale 10, l'ho sentito anche sul canale 10. Deve essere qualche scoppiato, deve essere. Ma è qualcuno antico che ne brodo bambo. La piego di culo, va. Ma tu domani lavori, Antonio? Che lavoro. Ma è festa domani? E ne va Rubonte. Sette. Sì, no, a sabato. Le scuole sono fortunate. Hai visto gli insegnanti quanto sono fortunati? Che non la si va bene di Bonti, le feste di Natale, non lavorano quasi nulla questi insegnanti. Se ci pensi, d'estate non lavorano, a Natale non lavorano, a Pasqua non lavorano. Se non ti ricordi i figli si fanno, poi si fanno le figlie. Che fa? Poi si lamentano quando vogliono diminuire gli insegnanti, si chiude in strada. Però fai due denuncia la massa che se ne sbaglia. I bidelli sì, perché i bidelli anche quando ci sono insegnanti devono lavare, devono fare, puliscono, capito? Fanno pulizie straordinarie, ne approfittano quando... Ma gli insegnanti già si rivadono i veri, non pigliano stipendi grossissimi perché prendono poco di stipendi. Che fa? Ehi, già ne prendo stipendio, vanno tutto pagato, vanno. Soprattutto il professore universitario. A te come gli hai la romese. Beh, quelli lì sono docenti, tanto non sa cosa. Scappa. Mamma mia, io sapevo che sta succedendo, sento soffiare. Sicuramente sta facendo due spettucci, aspetta un attimo. Sentivo un cane abbaiare. Come già? Non è successo? Io sentivo abbaiare. Abbaiare qua, io sentivo soffiare là. Perché nero si sta qua. Saltato sotto la gatta. Giocando. E gli dà soffiare. Perché è delicata lei. Beh. Femminuccia. Deve rude. No, non lo sa che è sterilizzata e si tenta sempre. No, non per quello, ma perché vuole giocare. Scappa, ma io stavo fatto pure a Edo. Paredo non deve fare nulla, che andrò a vedere. Che andrò a vedere, sì, che è più risiede. Scappa. Edo, che è quando si pone sopra di chi c'ha poverino? Per lui è Michelino. D'altro con un capo così. Lui è lungo lungo, come il bassotto. È lungo lungo. Ma chi da fare un leone? Sai cosa fa? Si mette a zampa in alto, si mette. Quando si corica, anche Titi lo fa. Si mette a panza all'aria. Cioè perché loro fanno bene. Titi, sai cosa fa? c'è il fumo del termosifone che passa sottoterra, non scalda le mattonelle, sicuri che ha sempre lì. Si muove tutto quanto, bello lungo, sazziato, allarga le zampe, non devi vedere come fa. No, è proprio tutto il caldo, io vedo un bel caldo che vorare. Cercano sempre il calore, perché? Sotto il calore della mia moto non ci vanno mai. Nonno? Infatti ci sono i piedi, tutto quanto, ogni volta me lo devo lavare, ogni volta che me lo prendo. Se non riacco di rubisci, ma come vale che io li metto il nylon sotto, di modo che se pisciano, se c'è qualche goccia, lo cambio e buco. Corare. Ma una volta che lo trovo, io dico che se ne metti dentro dentro la moto. Avevo fatto la lotta con uno che mi aveva fatto spaventare, l'avevo con un cagno e serviva con tutta la roba. Non mi stava saltando a prendermi aiuto. Certo. Ah, quando abitavo a casa di mamma, a Sacro Cuore, io avevo il vizio di farmi le scale al buio per dimostrare che avevo la... Sai cosa sei ragazzo? Per dimostrare che avevi il coraggio di salire al buio, dovevi vincere le paure, no? Ah, sì, è vero, l'avevo raccontato. Se vai brincando la ieri adesso provo ad avanzare, visto questa cosa lucente. C'era la finestra aperta, era l'estate. Ah, mi vedo questi occhi fosforescenti, magari la paura che mi ha fatto. Mi vedo, mi sono venuti i brividi. Come l'ho visto, benché nemmeno mi si accorge, al di là c'è un cagnotto, non sapevo manco cos'era, era un buccio. Si è fatto la roba colli, da buccio, si è filmato, non è che si è scappato, si è filmato a bella due sopra, io mi sono affacciato per vedere che cosa era. Insomma, abbaidato. Beh, io mi sono accorto che era un gatto nero con la coda mossa. Un giorno salgo così, accendo la luce, ma se si butto mi acciappo il tappeto di Sariatta, il tappeto della porta di mamma. Nello dormino, era punta da me. Ha fatto come mi ha visto, ha cominciato a farmi vedere i denti. Ah, stavo entrando da brincamennante, mi ha riconosciuto, mi ha aspettato, te ne immagini? Come andato a brincamennante, mi ha cercato a cogliere una foto di piedi e ci prendo la ringhiera in pieno. Ah, si può quant'ore? Cazzo, mi adorone. Ma sei riuscito a scappare? Sei riuscito a scappare, dopo non sono andato più vista ai sei anni. Poi avevo sempre paura a salire a casa di mamma, perché quando devo tornare a casa avevo paura sempre di questo gatto che mi tentava, capito? E allora mi ero anche armato. Chiappa. Magari se lo prendevi non si faceva niente neanche. Cioè, se riusciva a bloccarlo. No, Antonio, era di chi si arrischi, adesso devo ti fare nulla, mi ha fatto vedere i denti, sai quanto fa paura il gatto quando lo vedi così? Poi una tigre sembrava. Maledetto. Io pensavo uno di questi cacciaviti da scasso, di questi mali, grossi. La gente si avviti da poco un po' guai. Ha fatto perché se ne ricorda. Ma gridato la fece giù. No, mi ha buffato. Io! Ma quella volta, ui, me la sono vista poco brutta, ma io ho cambiato un raio, che se brividi mi sono venuti. Cioè, non capivi manco se era gatto, cosa, se era un gufo, cosa era. Io ci vedo solo ci sono brillanti. Come una volta è entrato un barbagiano nel palazzo nostro, di quelli bianchi però, tipo gufosi però bianco. E mio padre ha sentito boom, mi azzocco. È uscito fuori perché pensava fosse caduto qualcuno, dove c'era questo barbagiano enorme, e l'ha preso. Ha messo un paio di guanti e l'ha abbigliato. Quando si è godurlato, mi ha dato al signor Claudio, uno che abita vicino a casa, si chiama La Passione per la Pace. E gli ho dato, se l'aveva messo in gabbia. e mangiava tutto quanto, l'avevo da domesticato, poi non so che fine abbia fatto. Ma sono queste cose? Barbagianni sono degli uccelli notturni che praticamente mangiano tupi, tutta questa cosa qua dall'alto, non sono predatori, sono rapaci, come può essere il falco, il gufo, eccetera, eccetera. Mangiano le lepri, quello che posso dire, le bisce, tutte queste cose qua. Una volta un falco l'ho visto, stava puntando dall'alto, stava volando, aveva le ali larghe larghe, e sai come fa l'elicottero quando si ferma nell'aria così? Si è fermato così, a un certo punto si va a picco, boom, e ha preso una biscia, se l'ha vista dall'alto, una cosa allucinante, ha preso questa biscia, l'ha postata in alto, poi dall'alto l'ha torna mollata, come l'ha mollata è crepata la biscia e se l'ha mangiata. Addirittura. Fanno così, allucinante, cazzo. Una volta passando lì a Monterraso ho trovato un cinghiale di notte mangiandosi le radici delle piante. Non credevo ai miei occhi, ho detto, ma che fu un cinghiale, cosa aveva di notte? Ed era lampiccato mangiandosi le radici. E se è venuto dalla pianta di Platamola, le radici sono. Sicuramente. E lì dove ci sono... lì dove c'è tutta quella vegetazione, specialmente di fronte alla torretta lì, che c'è tutta la vegetazione attaccata agli alberi, uno attaccato all'altro, che non vedo come a così bassa, anche lì, che c'è tanto grande cinghiale, conigli, cinghiali di tutto, già. Io una volta ho visto attraversando una tartaruga enorme, sarà stata centenaria, enorme, un bel grande, e l'avevano verniciato la casetta tutta bomboletta che bastava. Grazie a te, so. L'ho presa. E cazzo mi usava pure la manna, mi stava soffiando. E la malarissa, l'ho presa per la casetta, se ne hanno fatto a chiamare così, l'ho presa per la casetta e se l'ho messa in mezzo alla pinetta proprio. E stava attraversando la strada, se non passava che chiamare chi c'è. Che si dicono che sono la casetta dura, questo e quell'altro, ma ci passava un camion brisante e chi c'è. Troppo. Girando le vie di cose lui. Per dire cosa c'è di gente prendendo cucui lì dopo la torretta, no? C'è quel pezzo di quel campo che a volte lo ara una cosa, lui è sempre pieno di cucui, lo sa. Quando piove è sempre pieno di cucui. Allora c'è di gente dopo che piove, no? Se passi quando... dopo che piove. Lo cucco di piglia l'inchino. Alla grande. C'è una specie di... un ristagno di acqua, di cose. Lo cucco se ti deve umidità, un vengo. Tante volte secondo me lo prendi c'è anche sapore di fango. È vero. Ma poi non vede niente. Piglia questo bocchino e piglia, fa caritare. Hanno le lumache al bordo della strada dove ci sono tutti i fumi delle macchine. Se tu cammini a piedi qualche volta, io ho fatto una volta a Predanida sino ad arrivare a casa a piedi. E praticamente nei bordi della strada l'erba è tutta nera. Fumi del camion. No, la mare addirittura. Sì, tutta nera, dei fumi dei camion, delle macchine, cose, ma più i camion devono essere. Tutta nera l'erba. E poi da negare la cosa, la gioca, che maniera che serve, mamma mia. A me, me la spiego una cosa. No. Sono sul tuo profilo, giusto? messaggio bisogna andare, bene, per inviargli un messaggio. Capisce. Perché non riuscivo a capire. Se no puoi far scorrere tutto. Alla fine metti dove c'è commenta, metti commenta e scrivi l'argomento. Ma aveva, c'era un altro modo, potevi metterlo tutto all'inizio della pagina, c'era lo spazio, a cosa stai pensando? Non l'hai mai visto? Sì, adesso l'hanno modificato. Era meglio prima. Era meglio prima. Ma adesso pian pianino io sto andando a scoprire le cose, mi piace. Facebook? Sì. A me mi hanno posto fatto. Prima c'avevo più voglia di entrare. Che senso? E c'avevo persone che mi interessavano di più e che usavano, comunque le persone saltano poco, Mi chiamano ogni tanto persone che a me non mi interessano da stabilità. Quindi non è che sia andando molto, sto andando poco, ci sono anche le cascette. Capito, ti spiegherò Antonio. Già lo so, già, non ti preoccupare. Si stanno infiltrando persone che a me non vanno. Eia, se ne parliamo tutto il giù. Non ti preoccupare. Io ho legato un taglio, non è che sia entrato più di tanto. E fa chiappa. E vabbè. Succede che quando uno non gradisce, ma a me ti dico la verità, non è che me ne importo più di tanto, Tu ti ho detto che non è come pensi tu, che sarebbe importato anche a te. Siccome non te lo posso spiegare qui perché sono troppo ricchi all'ascolto. Sì, ma già tanto compreso cosa vuoi dire. Anche nell'ambito della ditta dove lavori tu, che ho troppe faccia di cannao. Stanno entrando troppe persone che non mi vanno, che non ritengo persone opportune. Kappa kappa. E perché? È pirino, pirino. Perché mi ha telefonato poco fa, ma ero incasinato con quell'affare dell'armadio. Me ne è sceso quell'affare, tutta la roba, un casino. Stare in pace un attimo, no? Io metto un paio di zitti già, vecchio. No, ho già fatto tutto, però volevo fatto. Ho provato prima con i pirulini, ma no. Dopo ne avevano messo uno in meno, per forza non reggeva, si ne fa la vado a bassi, si faceva la burrasca. Ma risposto? A chi? Mi ha telefonato. Chi è che mi ha telefonato? Adesso mi ha telefonato poco fa. Io? Tu mi hai detto adesso, mi ha telefonato poco fa. Sì, mi ha telefonato. Ah, tuo padre? Sì, abbiamo parlato anche a te. Quello che stavo facendo quel lavoro, ho detto per qua scusa, ma sono incasinato niente, no? Se non me ne va tutta la roba in alto. Chiappa, non sarei visto l'assessore, sarei vacante in Sicilia, chiappa. Chi è che se ne fa in Sicilia? Assessore, è figlio. C'è chi può. Chiappa. Cilia mi ha detto che è bella come la Sardegna. Tranquilla situazione. Qui la non direi. Qui la mafia che c'è. Non lo so, lui è peggio di qua. Ma dico come zone sono tutte belle. Come zone sì. Anche le siciliane sono molto belle. Mi ricordo a me sono siciliane, perché i mariti sono tutti gelosi. Tutta mia. Peccirillo. Cirito. Ma lei sono subito col fucile in mano. Ah no. Chi cui pare non è tratto. Non usavamo. Cucire a carne mosse. Se non le dico di una bella smentagliata di proiettile. Di bisura tratta. E affiancalo con la moto, pum pum. Se non basta pure le bombette. Bombette. Già. Si fa del brincare a gas. È carina questa foto. E che foto? Ah, di una persona che stai parlando oggi. Ah, di Ritucci. Ma dove sei? Non sei sul profilo mio? No, adesso no. Stavo guardando le fotografie di lei, cara. C'è una fotografia un po' carina, cioè. Ma io non l'ho mai visto, non sono mai andato sul suo profilo. Ciao. Il camper, visto l'hai? Sì, una volta perché l'ha messo nella pagina iniziale. Ciao. Bello, è nuovo nuovo. Oh, è bello, è l'ultimo uscito. Il Fiat Ducato mi sembra che sia. Il multijet. Sì, sì, è molto bello, eh. Aspetta un attimino che sono al tuo campanello. Cappa. Certo. Mi qua. Eiaia. E comunque speriamo bene che si allaghi anche Alghero, là. Come ci vediamo. Prima Alghero c'erano. Addirittura ci avevano i gruppi con i cani che facevano, che andavano a ispezionare le spiagge, e non ci cambiavano i bocchi di gruppi CB. Chiaro, ma adesso interessa che Porto Torre si sia allarghi. Ah, sì, ma dico, anche almeno qualcuno c'è che c'è la passione, c'è Cona, c'è Pinangelo. Ce ne sono un po' di Alghero che hanno la passione ancora e vorrebbero ricominciare, ma diciamo che una cosa tira l'altra. Se io per dire non sarei noi, non saremmo entrati al Sassari, non ci sarebbero stati manco gli altri gruppi, io penso. Sicuramente, ma comunque l'importante è la preda. E invece adesso uno sente l'altro e via. No, è così, no. Uno deve scegliere dove più gli aggrada. Beh, quello sì. Ma se adesso è stata sempre scelta in gamba, Sì, no, tranquilla, non sta dirle niente. Gente che tranquilla, ti può chiedere il controllo, ti fa una chiacchierata, ecco, queste cose qua vanno bene. Non c'è il difettuccio, c'è qualche difettuccio ce l'ha, per carità, però tutto sommato non crea problemi, niente. Niente, i difetti che non ce li ha. Se ci facciamo la mia colpa, tutti c'hanno i loro difetti. Per me, ognuno c'ha i suoi. Io la penso in una diversa maniera, uno la pensa come meglio crede. Interessante sempre questo, rispettare le opinioni di tutti, anche se non si condividono bisogna rispettarle. Ma per esempio io penso certe cose, penso e a te non ti vanno, e per me è così, sono giuste e per te sono sbagliate, tutto qua. Ma poi se il mondo fosse tutto uguale, il mondo è bello perché è vario. Ma per volte magari è la verità. Per volte dico, ma cosa capo sta dicendo? Cioè, ognuno lo pensa, magari pensa che tu sei intorto e magari tu pensi che sei intorto lui, e così. È un modo di pensare, sempre. Diciamo dipende dalla persona, come la pensa la persona, però io sono del parere che bisogna far discutere a tutti e due. Io non condivido quelle persone che tu stai parlando e ti vogliono parlare sopra perché non condividono quello che dici. No, deve sentire la sua e poi esprimere la tua opinione. C'è libertà di parola, no? E di stampa, di pensiero, di parola e di stampa, quindi devi ascoltare e poi puoi replicare, non è che devi replicare senza ascoltare quello che uno dice, eh? Bisogna rispettare l'idea di tutti. Quelli che mi danno fastidio sono le persone che troppo rompipalle, le persone che si rubano i soldi, quelle cazzo non li posso vedere manco appena. Come sarebbe a dire perché si ruba i soldi? Cappa, come sarebbe a dire, le persone che si rompono, cioè che per esempio, cosa ne so, tu li dai 50 euro, chi se non si vede più e non te ne torna più, quelle lì in generale. Vabbè. Io per quello non penso niente a nessuno, così almeno non ho problemi. Mi hanno già fregato troppe volte, per cui una volta 150, una volta 50. Ah va, se li voglio regalare, regalo io, Regina. Ma se io te li presto me li devi tornare, perché ho fatto la cortesia di prestarti, tornameli, no? O dimmi, guarda, questo mese non te lo posso tornare perché ho avuto spese, ti ritorno il prossimo mese, io accetto anche quello, ma non tornarti di più del tutto è brutto, eh. Scappa. No, soprattutto, cioè, uno lo può fare, dargli, cosa ne so, 50 euro a una persona che in quel momento non ne ha. Lo può fare solo, esclusivamente, se una persona, ma che conosce alla perfezione, che sa che è una persona che non ti piglia a fare un culo. Hai capito? Lì ci può fare, ma se si è poco affidato, lascia perdere, lo sai già. Io l'ho prestata a un'amica, eppure non me la adoro a tesi, ed era un'amica, una che conoscevo bene, purtroppo, quando succedono certe cose, non è che l'ha fatta apposta, però doveva almeno, secondo me, avvisarmi, dirmi, qua non te ne posso tornare per questo motivo, gli avrei detto te ne dico, però almeno ho detto, capito? Invece no, si è separata con un marito, dice che dà, ha avuto spese, buffi, dice che dà, però poi quando ha ribussato la porta l'ho trovata chiusa, certo. Ma magari in quel momento lì, cosa ne so, ti mancano 20 euro, io ce li ho in prestito, cioè, ma sono sicuro che tu a me mi ritorni, e io sono sicuro che io a te te ritorno, così ti voglio dire, perché ci conosciamo abbastanza bene, io però con un altro non l'avrei fatto, capito? Quello ti voglio dire io, come se me lo chiede un'altra persona che stava parlando poco fa, io glielo farei, ma se me lo domanda a qualsiasi altro, io non lo farei mai, perché vi conosco alla perfezione che tu mi ritorni, non mi bruci, hai capito? E io ritorno a te, quello che ti volevo dire. Tu mai ce ne sia bisogno, ma se tu a me mi dovessi dare anche 10 lire, io la notte non dormo, ma l'indomani te ne dormo. Sono fatto così io. Se anche tu a me mi presti una cosa e non è mia, tu mi dici già, prova questo apparecchio, mi brucia sotto. Cioè lo bruco da qui, non vedo l'ora di tornartelo. Perché sono fatto così, se roba non è mia, non... sono fatto così e buco. Scappa, no, ma non ci sono problemi per quello, perché ci conosciamo abbastanza bene e so che io non ti brucio a te, capito? E quella è la differenza, e tu non bruci a me, cioè la differenza è quello che noi ci conosciamo abbastanza bene con sia io che con l'altra persona là, quindi non ci sono problemi, anche perché si sa. Ma il bastone è di fuori, manco per le palle. Vabbè, vabbè, il radio è diverso, il radio, se amici in radio, boh, non è che, a parte quelle poche persone che si frequentano, se amici sono in radio. scappa. Vabbè, ma conosciamo anche da vecchia data, non è quello il problema. Cioè, non vi sono problemi, né? Quello sì. Io te da giù mi sto crescendo. Non credo, via. Adesso da vicino minore, quindi so già che no, non è possibile. Ma come sono, per come la conosco, so già che anche un'altra persona non se lo sognerebbe mai, perché la conosco bene, anche se non è che ci conosciamo da molto. No, no, questa persona che dici tu è una persona corretta e... A parte che un po' forse l'orgoglio e cose, non penso che né io né l'altra chiederemo mai soldi, perché non... forse anche per cosa, no? Vabbè, dico la verità, non è che ci sia questo grande ba, se ci fosse bisogno, forse io non lo farei per orgoglio, non lo so, per vergogna. Scappa. No vabbè, ma cioè è diverso, dai, è diverso, perché so che così è fatta, però può capitare, sai, vabbè, cioè, hai capito, sono delle cose diverse, io non mi fiderei mai di una terza persona che non voglio fare commenti, per carità. Di quella lì no, mi sono reso conto che è inaffidabile. Beh, io fidarsi è bene o fidarsi è meglio, visto che specialmente con i soldi c'è molta gente che è malibagatore e si biglia e tramposa, si biglia di dinare e poi non li fate più vedere. No, io lo so. Chi è e chi non è, capito? Adesso te ne la fortuna. Mi fermo a questo tipo di Porto Torres una volta col bidone in mano, ma mi ha detto, ecco, non è che mi prese 5 di zero, ma pure un po' di benzina, che sono rimasto senza benzina nella macchina. E gli ho detto, e quando mi ritorno gli dirà, no, non ti preoccupare, cioè, porta i negozi, insomma, non ti preoccupare. Io mi ha detto di zio, lo conoscevo di vista, chiede il negozio e non ne ha portato, né il giorno prima, né il giorno dopo, aspetto, passa quasi un mese e lui i soldi non ne ha portato. Allora lo sai come ha portato oggi, tu lo senti già zeghiso e mi l'hai detto. Sono andato a casa e ho toccato la Ianna. Gli ho detto, lui non c'era, era al lavoro. Mi ha risposto la moglie. Mi ha detto, ascolta, così passa così e così. Siccome io i soldi non li trovo per la strada, già gli ho fatto un favore. E poi non li ho vissuti. Ma non si appella, si sarà dimenticato, non penso che mio marito prediceva si faccia vedere. Sai cosa faceva? Ho scoperto dopo tutta la storia, questo era un tossico. Usano questa storia del bidone per farsi i soldi, no? E me non ne dorò nessuno. Questo qui è diventato tossico, nel frattempo io lo conoscevo per persona normale, e poi è diventato tossico. Con la storia del bidone, dicevo da uno, dicevo dall'altro, si bisognava nella droga, hai compreso? Questo me l'ha detto la persona che abitava di fronte, quindi lo conosce. Gatta. E ma quando l'aveva cattato la via, dove andava a fare il belacuro, brutto miserabile. No, no, me li ho fatti tornare i soldi. Gatta. E tanto per mettere più, non vi passate le macchine, oggi no, l'aveva detto. La moglie ha detto, comunque gli ritorno io i soldi, se ne ha telefonato al lavoro, gli ha detto sì, è così, non vi sono passato, però... Ah, così è. Ha pigliato, mi ha dato di dinamica, ma te non c'ho 20 euro, già detto no io dici, la giubilia ti ho trovato di dire, ma l'ho fatti da. Cioè non è tanto per i soldi, è per la presa in giro, capito? Si è attaccata. Non va bene. Io ho pensato che fosse vero. Guarda che una volta io ho aiutato una coppia di ragazzi. Ma ragazzi, una ragazza ha detto che devo far tornare a socio, non c'avevano benzina nella moto, e avevano preso il portafoglio, poi se la vero non lo so, Antu. Cazzo, su fammi questa grazia, mettimi qualche cosa di benzina, anche poco, anche un litro va bene. Ah, io busso sicuro di benzina, cosa? Cioè a me non mi fanno più le cose. Cazzo, grazie compa. A ricambiarti, dai, sì. Al limite dammi il numero di telefono, ci troviamo e te ritorni su, non è problema, no? Lascia perdere, vai tranquillo, ciao. Dice grazie, un bel ringraziandomi anche la ragazza, wow, veramente grazie. Per dire, se uno te lo chiede così, e sai che gli stai dando, poi non li rivedi più su, è un conto, ma se uno ti dice, io ti la reguivo, è diverso, no? Gappa, dici così, ecco, fa una cosa, vai in ora a Maramone, una cosa, e via. Però le pigliate per il culo non esistono, cioè, non va bene. Anche se io le avrei detto fa una cosa, vai ammazzati, non ti fa più vedere, ragazzi. Ah, adesso è diventato un pezzo della valle, tutto è diventato un randaggio. Ma è brutta, non è buono in Mondetta. Ma vesti tutto male, con i belli longhi, tutto brutto. Dai, randaggio che... Per dirti. Esiste di questa gente? Ah, voi, a fiume. Quanto che sono? Sì, sono quasi... Adesso guardo, ma tu mi hai più cellulare? Le 11 meno 25. Sai che mi fa il bagno? Ma dimmi lo di bianco che mi sto fischiando. Aspetta, mi stacchiamo mia sorella. Come qua? Cazzo, è guarda, cazzo. Guarda, mi segui da Giorgio. Da Nero. Mi ha passato il pannascolta, se era un casino. Mi stai facendo la vecchia. Ah, tra un po'. Io c'ero nel filo, scusa. Come a volte non mi sento una voce presente. L'altra volta la sua voce era associata, chi non tiene la voce nella legge. E invece ha abbassato dal filo. Chiappa, chiappa. No, comunque già va bene. Ma non bella queste cuffie, no? Non lo so, cosa hai preso di cuffie? Ti mi ha regalato quella persona. Ah, pure a te? Sì, l'ha regalato anche a me. Che pagato. Vabbè. No, adesso si sentono bene già. Mi ha preso tutti e tre uguali. Sì. Così non fa gelosa nessuno, ma così ho fatto io. Così ho fatto io. Il regalo l'ho preso tutti e tre uguali. Poi gamba. Non preoccupare che appena possibile già vediamo. Poi, Anto, mai la vedi, io non faccio regali per riceverli, per essere contraccaramento, li faccio perché li sento, punto. Non è che uno si deve aspettare perché fa un regalo, si deve aspettare che l'altra persona glielo rifaccia. Ma stai scherzando? Vabbè, ma appena possibile non ti preoccupare, non c'è problema. Pure io te lo faccio perché mi sento di farlo, cosa c'è? E io, beh, non fartene un problema. Cappa. Interessante che ti sia piaciuta la roba. Sì. Appena possibile, vedi. Allora, una bella Maserati. Cazzo, è diventato un ricordo che l'avevo comparata. Scherzato. Il nuovo Ferrari Super. 400, no, 650 cavalli, 4.000 di cilindrata, mi pare. Anche il periodo di Natale a Porto Torres stava girando questo tipo con la Maserati bianca. Come facevo? Diva, Diva. Ma se no quel nuovo sub Ferrari che hanno fatto, mamma mia. Neanche questa qua già non era male. Si sentiva un rombo il motore. Quello è minimo, la... io penso 4-5 mila, per una cosa del genere si vedrà. Io non so cos'è, più che altro siamo un bel cavallo. Oh, ma la potenza del motore si sente per così su che fa bum bum bum bum bum. Quello lì è schizzo, no? Poi come partito, sembrava una moto di quelle da corsa, tipo R1, roba così, cazzo mi azzocca. Incelerata che fa, diciamo? Si è reso chi ha messo serbatoio. Lo so, ma probabilmente chi ha quella macchina non ha problemi di benzina. E quello sì, sicuramente al portafoglio al suo momento, se si è preso una macchina del genere, questa è 200-300 milioni. Cosa? Lo so, comunque, con questo dire c'è una vita. Già, quando andate a vedere, lui in prima sale le marce un bel lunga, poi beh, io non credo io che la marea cagliari va bene, no? Ma non sola, ma tanto si sta male seduti in quelle vanne. Sì, no, sono sportive, credere no. No, il viaggio io preferisco fare una macchina con sedile morbido piuttosto che sagomato e quelli duri. Chiappa, adesso non decidi le abbastanza come si deve, soprattutto i Ferrari ce l'hanno, sono fatti a mano. C'è una Maserati bianca con lo sperla. Chiappa, sono artigianali, sono quelle macchine. Bella, certi si dirimpelle dentro, cose, tutta rivestita all'interno di radica, di coso, beh, bella era, perché si è fermata allo stop e l'ha sbirciata, mia macchinone, Edu, era un ragazzo giovane, ci avrà avuto 32 anni. Ciappa. E io voglio, cazzo, mi ha detto l'accelerato, cazzo. Sto andando a trovare la gommista, un casino. Quello è lui, quello deve cambiare le gomme come le moto che fanno pista. Di buona accelera così, sì, Perché poi non ce la fanno, c'è tecnologia, attacca, poi non ce la fa più attaccare perché sgomma. Non credo che sgomma, la potenza resta va di motore. E vola, no? Ci lasceranno un mezzo pneumatico in terra. Non bisogna stare attenti pure come si va. Però bisogna stare attenti. Ma che pure si cammina nei citati dietro l'angolo. E soprattutto con macchine del genere. Sono peggiori, insomma, certo. Però ti vogliono a correre. Già non credo, già. Che vogliono diciamo che sono macchine un po' potenti e ti biasi di là li bull. E quello è il problema, magari stai anche spuntando, ma devi ridire un poco, ma cosa senti tutta questa spinta. Io non ho visto uno scemo con una cosa su arancione, ma hai visto là? No. Cazzo, è tutta un'accelerata. Sento la paloma, hai visto? Con la UT. UT in Europa. E quella con l'arancione. E vabbè, fanno tanti culti. E dopo accelererete. Ma sono tutte macchine, la UT, la Ferrari, cosa c'è? Tutte quelle sono tutte macchine che più o meno costano una barca di soldi. Maserati. Sono fatto quella quattro porte, il SUV. Maserati, Porsche. Chissà. Una volta hanno fatto la gara Ignazione. Mi ha accelerata. Ma tutte Ferrari, vedete che si vede che va a messaggio a un altro, hanno fatto la gara. C'era un bel, da Modena, Modena finisce un bel Ferrari. Sono macchine che costano una baccalina e poi non li aggiustano qua, mi sembra che non ce n'è meccanico che possa fare quelle cose. No, per fare la musica punta devi mandare in continente. Mandarle a Modena, mi sembra. Via. Vicina. A Modena c'è la concessionaria. No, ma le vendono anche qua. Che paga. Tanto là, ci andiamo a letto adesso che è un bel tardi. Ti auguro una buona notte, buon trabacco per domani, là. Ci sentiamo. Buonanotte già. Sentiamo. E vende l'auto Max comunque. Ciao, buonanotte. Notte. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte già. Notte, ciao ciao. Ciao, ciao. Io sto chiudendo perché domani devo lavorare. Ehi, ciao, ciao.